io l'ho fatto anche il gigolò per un brevissimo periodo. Ma no, il gigolò ho fatto sciocca la zanzara, no. Cruciani confessa. No, mantenere no, però. Ma lo gigolò in che senso, che ci cioè, hai fatto a pagamento l'amore con un delle paio di volte, no? Mi sono fatto pagare tempo veramente fa. Sì, sì, mi sono fatto e pagare. Chi erano questi? No, continuiamo. Una aspetta, volta 500 euro, devo dire, ma tempo fa, tanto tempo fa, una mi ha dato 500 euro per trombare. Ma ragazzi, sciocca la zanzara, no, no. Ma pazzesco, ma che pazzesco, ma dai, che schifo. Ma lo fai ancora, Peppe? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo. Cruciani, più spazio a Parenzo, più spazio alla maggioranza silenziosa. Noi siamo il top. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare. Ragazzi, io ho bisogno di aiuto. Non so perché, ma ogni volta che ascolto la zanzara mi viene voglia di andare a puttane. Veramente, quando l'ho visto che all'entrata ha salutato a uno per uno, ha dato la mano a uno per uno, e ho detto, per la parola, questi sono figli a Fazio, sai, quello della a Fabio Fazio. Ho detto, per la parola, c'è uguale a questo. Come si fa a telefonare qua? Basta schiacciare il tastino verde. Il tastino verde, ecco qua. Ma io devo telefonare a Roma però, Veramente non si potrebbe, però c'è un trucchetto, no? Con l'altra mano schiacci il tastino rosso. Questo qua? Vabbè, ho fatto. Adesso faccia lo 06 e poi il numero. Con chi lo faccio, quel cazzo? Amico mio, se l'è goduta il signor Thomas Milian. Oggi sono morti due grandi, sono morti due personaggi enormi, due grandissimi. Uno, amico mio, lo conosco da tanto tempo, il mitico Cino Tortorella, aveva quasi 90 anni se non sbaglio. Se l'è goduta fino in fondo. Amici miei, vorrei arrivare anch'io fino a 90 anni come il mitico Cino Tortorella, cioè il mago Zurli. E un altro, credo ne avesse 84-85, il superlativo Thomas Milian, detto anche Ermonnezza. Ermonnezza, certo. Però mandiamo qualcosa di Thomas. Non lo facciamo mai, però per Thomas lo possiamo fare. Grande Thomas, ricordo, vai con un Thomas, grande vai ricordo, con Thomas. Ma non ho capito, dottore. Se da quando mi sveglio la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire? Scusi. C'è una cosa però che vorrei mettere subito in chiaro, dottore. Dica. Che con me non si faccia mai gira l'ico. L'ico? L'icoglioni. Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora pensa tanto che tu devi piangere il culo, 26. A 26. Allora, le follie sull'attentato di Londra, caro Parenzo, io aspettavo solo questo, Aspettavo solo che venissero a galla le prime follie sull'attentato di Londra. Innanzitutto devo dire la verità. Un grande applauso al sindaco di Londra. Ma che c'entra il sindaco di Londra? Che c'entra? Che ha indetto questa veglia straordinaria. Oh, la veglia straordinaria. Sindaco di Londra. Tutte cose che un non contano un straordinario cazzo. Come il sindaco di Rotterdam, che è un marocchino. Ma cosa il c'entra? Il sindaco di Londra, come se ne frega, sai, che sono marocchino indiani, l'importante è che facciano bene i sindaci. Ma certo, è un grande segnale, Sadiq ma Khan, che segnale, avanti ecco. Tutta e grazie perché ma la grazie tolleranza. Di cosa? Grazie di che? Grazie al cazzo di direbbe Thomas Milian, scusa. È a guidare con il consenso popolare una città multietnica e multirazziale. Ma cosa c'entra? Ma chi se ne frega? È il miglior simbolo dell'Europa. Ma deve fare il sindaco, non il simbolo. Faccia il sindaco, non il simbolo. Ma la politica è fatta anche di grandi ma simboli. Ma quello lo dici, allora tu, basta con questa storia dei simboli. In questo momento a guidare la Londra multietnica ferita dall'attentato terroristico, bisogna dire soltanto grazie. Ma cosa grazie di grazie che? Ma non ha fatto una mazza. Lì ci sono quelli che sono intervenuti. Sadiq Khan, non si chiama Brown, si chiama Khan. Ma chi Sadiq se ne frega? Khan si chiama Sadiq, è importante, come se un domani a Roma al posto della Raggi ci fosse Abdallah Gavakebji. Sarebbe quello, speriamo sì, di no. O a Milano. Speriamo di no. Sarebbe speriamo un simbolo no nostra. O speriamo Khalid di no. Chaouki, amico, sindaco di Roma. Amico di Khalid personaggi Chaouki discussi. Khalid Chaouki, sindaco di Roma. Sindaco di Roma. Un domani è così. Accontentati. Mettiti il cuore in pace. Un domani Khalid Chaouki sarà sindaco di Roma. Due punti. Voglio Chaouki sindaco. Voglio un islamico sindaco di Roma. Khalid Chaouki sindaco di Roma. Grande battaglia di civiltà liberale. Rilanciare una città è intollerante con gli intolleranti, invece è tollerante mettendo un uomo dire come Khalid Chaouki, capito? Ma cosa c'entra? Chaouki, sindaco di Roma, ma meraviglioso. Ma perché? Un grande simbolo ma positivo. Non sa, non sa manco fare il deputato, figuriamoci poi, il sindaco. Ma cosa stai dicendo? Ma figura, il deputato vigliacco non fa nulla. Poi dai, mettiamo a condurre, altri, a condurre dalla vostra parte, mettiamo la Kang a questo punto. Sì, nel mondo ideale di Parenzo, nel mondo ideale di Parenzo c'è a guidare dalla vostra parte c'è la signora l'ottima Kienge, bellissimo. Vedrai come cambia tutto, come si inverte la prospettiva in quella trasmissioncina lì. Questo è buono. Vedrai questa come si dire inverte che la prospettiva. Però a proposito, sindaco di Roma Khalid Chaouki, sindaco di Milano Abdallah Kebji. Vabbè, possiamo chiudere qui, mi sembra, no? Sì, possiamo no, chiudere bravo qui. Hai detto cosa giusta. Anche perché sono molto malato. No, domani no, però devo devi restare così, devi restare così sul domani pezzo. Devi domani restare sarò a Cortina. Sì, lo so, lo so. A fare un grande racconto popolare dell'Italia vera. Popolare, non esageriamo. L'Italia Cortina vera popolare, no. L'Italia vera. L'Italia dei ricchi. L'Italia Cortina, dei ricchi. Cortina metraggio. Avremo grandi ospiti, star, mondo del cinema, cultura, sì, libri. Sì. Ma no, no. L'Italia qui alla Zanzara, vera. No, no, l'Italia migliore in diretta da Cortina. Ma non è vero. La posta. Domani venite tutti, amici camionisti. Vediamo se vi fanno entrare, peraltro. Venite venite pure con carta Donato, di credito Gold. Donato da Varese, vieni all'hotel della posta domani. Ma vediamo no, se non ti ci va entrare. Uno sta a Varese. Non, vediamo, non vediamo, vediamo, vediamo. Allora, però, a proposito di Londra, di quello che è successo e delle follie che ho sentito, e a proposito di islamici, caro Parenzo, c'è un signore che si chiama Nur Allam, il mitico Siddiq. A proposito di nomi strani, Nur Allam, che io però più tardi chiamerei il signor Siddiq Nur Allam, il quale dice: come mai non fermano mai un attentatore vivo? Questo è un tuo amico islamico, eh? Un tuo amico islamico, tu che sei il protettore di islamici, no, protettore, rom, fancazzisti, come no, fancazzisti no, però sicuramente protettore di islamici, rifugiati, extracomunitari, rom, disagiati, persone che hanno bisogno. Tu sei il grande protettore di queste protettore persone. Sì, ti sei già candidato a essere portavoce della comunità rom italiana, ti sei candidato a essere portavoce di Refugees, Italian Refugees, e sei uno dei promotori della marcia a favore degli immigrati di Milano, grande marcia, promotore della marcia, marcia. Sì, per carità, va benissimo, per carità. Poi credo che tu abbia un messaggio da dare alla Lega per una cosa. Quello che è successa a Rimini. Però cosa aspetta, di una aspetta gravità inaudita, certo. Nur Allam dice: perché non fermano mai un attentatore vivo? Come mai la dietrologia di questo signore? Ma che cazzo ne sa quello mi che sta a Roma in uno scantinato, uno del Bangladesh che sta in uno scantinato a Roma? Che cazzo ne sa Siddiq Nur Allam? Cioè uno andato con una macchina ammazzando 5-6 persone con un coltello. Io una domanda sento, senza polemica, senza giustificazione o cose. Ma perché sparano polizia questi attentati? Perché non ne fermano uno, arrestano per capire ma da dove è arrivato? Siddiq Nur Allam, potevano spararli, potevano sparargli. Ha detto una sciocchezza, ha detto evidente. Siddiq Nur Allam. No, ma perché lo ripeti? Sei così intransigente nei confronti. Sei così intransigente, come di Siddiq, abituati. No, ma aspetta. Abituati, perché l'Italia è questa. No, l'Italia no, non è soltanto Mario Rossi, no. Cruciani. Io spero che non ci sia la sopraffazione, la vittoria di questo. La sopraffazione. Sì, che non diventino maggioranza gli islamici. Posso augurarmi che non diventino maggioranza gli islamici. islamici, gli islamici di Muslim. Abituati ai cognomi. Ne ho conosciuto uno di recente, quello là di il convertito, un muslim convertito. Non erano belle parole quelle che ho sentito. Ma cosa c'è? Non erano parole interessanti. Abituati, non erano parole di civiltà. Abituati, ma no, ma non me ne frega nulla. È una persona che deve vivere secondo le nostre leggi, punto e basta, e vivrà sicuramente. Ma non mi auguro che diventi sindaco di Roma. Francamente, non me lo auguro. Non me ne frega nulla. Ma non me ne frega niente che diventi sindaco di Roma. Lo faccia un romano, uno che conosce la città. Un romano, quello. O almeno quello uno che conosce la città, ma è romano. Uno romano, ma sì, ho capito. Ma perché sì? No, scusami, perché hai proposto il signor Khalid Ciauchi sindaco di Roma? Meraviglioso. Spiega, un segnale stupendo alla comunità migrante. Ma quale? Un segnale di apertura. Ma perché il segnale? Guarda che è vero. Ma segnale non di è che? Una battuta. Ma non abbiamo i segnali di fumo. Immaginati. I segnali sono quelli che fanno con le navi, ma che sparano con i segnali. Peraltro, si sa benissimo. No, poi ti racconto una storia. Tu immagini la potenza. Aspetta, del sindaco di Rotterdam, marocchino. Oh, ma chi se ne frega Rotterdam? Si stava meglio anche 20 anni fa. È uguale, dai, su, l'Allanda non cambia perché c'è quello sindaco. Nur Allam, potevano sparargli al piede per arrestarlo. Poi senti le cazzate che dice questo. Ma questo ne dicono anche c'entra gli italiani, adesso le sentirai. E quante le dicono adesso i leghisti? Le sentirai, i leghisti. I forconi. Perché non sei così con i forconi, ad esempio? Come no, voglio, quei forconi sono avvelenato. Io dico una persona con un coltello. Se non dovevano ammazzarlo, dovevano... Non proprio... Ma se devi sparare, spari al piedi, poi arresti, cerchi di capire matrice islamica, musulmana, cattolica, di induista. Ti offrivano qualche cosa, magari. Io, ma aveva come arma l'automobile. Sì, sì, io per terrorismo questo. Sì. Poi c'è anche il signor Marcianò, detto anche Merdanò. È ritornato a galla il signor Marcianò, detto da noi Merdanò. Ci vorrebbe anche querelare perché lo chiamiamo Merdanò, senza capire che questa trasmissione è fatta così. Marcianò, Merdanò, significa che propala merda. Ma la merda è anche c'è anche la merda d'autore, volendo. La sua però non è merda d'autore. Cioè la sua merda non vale come la merda d'autore. E beh, dobbiamo dirlo. La merda d'autore, non mi ricordo chi era quello che ha fatto Manzoni. Bravo, Manzoni, però non me lo ricordavo. E sai che non ho un problema. Alessandro Manzoni. No, sì, Manzoni l'artista, sì. La merda d'autore è una straordinaria cosa. Si chiama Piero Manzoni. Piero Manzoni, bravo, sai, molto bene, sì, in questo momento mi sfuggiva. Attorno agli anni 60, non assolutamente ricordo la quella data di Marcianò, detto anche Merdanò. È un'opera di un grande artista. Esatto. Lo possiamo approfondire però. No, chi non possiamo Piero approfondire, Manzoni? Non forse non, interessa, no, no, non approfondiamo. No, niente, ma perché io mi soffermerei allora chiamiamo in diretta un transessuale. Allora, quando ce c'entra? È sempre così, appena uno prova. Ma perché io credo sei razzista con i transessuali? No, ma è la tua domanda classica. Sei razzista? No, ma sei razzista con i transessuali? Ma posso avere la curiosità di un transessuale se c'ha un pisello più lungo di 20 centimetri? Posso avere questa sì, o no? Eh? E dai. C'è stata un'esercitazione proprio sul Tamigi, una esercitazione antiterrorismo a Londra sul Tamigi. E abbiamo scritto, c'è da immaginarsi che nei prossimi giorni, usando queste immagini che sicuramente avranno realizzato, ci diranno di aver subito un altro attentato terroristico. E così è successo. Il signor Merdanò. Hanno usato immagini dell'esercitazione per farci credere che c'era un attentato. Ma questa gente le pensa di notte queste cose? Mi balla la bagianata. Quando è che chiudete, cornuti? Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento La Zanzara. Mi sono addormentata leggendo la biografia di David Parenzo. Carino. Io guardo la diretta in webcam solamente quando c'è lui. Ti prego, Parenzo, parla sottovoce. Hai una voce così sexy. Maggioranza silenziosa. La Zanzara è una trasmissione che può nuocere gravemente alla salute. Può causare effetti indesiderati come razzismo, urinazioni sul lavandino, mancato lavaggio di biancheria intima o erroneo posizionamento sul bidet. Se il problema persiste, contattate l'800 24 0024 o lasciate un messaggio al 393 71 71 701. Allora, ma sentiamo ancora questo signore che si chiama Marcianò, da noi detto Merdanò, che dice il SUV è stato realizzato in computer. Sta parlando dell'attentato di Londra, morti, eccetera. Il SUV è stato realizzato in un computer grafica come gli aerei delle Torri Gemelle. Oh, mamma mia. Si vede sfrecciare una figura sfocata che sembra più che altro non un'auto ma un UFO, perché è molto sfocata, non si vede assolutamente niente, quindi probabilmente realizzata in computer grafica come gli aerei che si scontrarono per finta contro le Torri Gemelle. E quindi immagino che anche questa possa essere l'ennesima conferma che si tratta di un falso. Allora ragazzi, questa sera più tardi ci occuperemo di una vicenda incredibile, è una piccola vicenda ma significativa di come le cose vanno nel nostro paese. La vicenda è quella di una masseria in provincia di Lecce, anzi no, a Lecce, vicino alla città, vicino al centro abitato, dove c'è un signore che si chiama Marzo di cognome, Luigi Marzo. Questo signore nei giorni scorsi lo abbiamo sentito e ci ha raccontato tutto, questa sera sì. Se riusciamo a collegarci ci racconterà ancora nei dettagli che cosa è successo. Praticamente ha ereditato una masseria che è stata occupata improvvisamente dai Rom. Rom, due o tre famiglie, sono diventati da 20-30, ci sono dei minori, non si riescono a sgomberare e le autorità non sanno che cosa fare. Una masseria in provincia di Lecce, ripeto, un piccolo caso ma significativo, in altri paesi sarebbe intervenuta la forza pubblica immediatamente a sgomberare questo posto. Questo signore è andato dal sindaco, ha fatto casino, sono arrivate anche le Iene, manderanno in onda un servizio domenica, un bordello pazzesco. I Rom sono ancora là, lo sbeffeggiano, lo pigliano per il culo e questo paradossalmente è costretto a fare anche dei lavori di intervento per rimettere a posto, mentre quelli cagano ovunque, sporcano con l'immondizia fuori, una vergogna tutta italiana. Marzo, signor Marzo, sentite. L'agenzia immobiliare incaricata di vendere la proprietà mi aveva avvertito che si erano inseriti dei Rom. Dei Rom. Io infatti ne ho intercettato uno, gli ho chiesto scusa dove vai? Ha detto sai ci siamo messi qua perché ho 10 figli, mia moglie sta partorendo l'11° figlio, ho detto mica è una clinica pediatrica questa qui. Dice ma così poi ti prometto che io vado via. E ancora questa famiglia di zingari sta lì? Sì, sono una ventina di gentiluomini che sono ancora all'interno, hanno sfasciato tutto, hanno abbattuto muri, hanno danneggiato un plinto, il plinto è una colonna portante. Ma perché? Non ho capito, ma perché non si possono sgomberare? Mi scusi, perché non si possono mandare via con la forza pubblica? La proprietà è sua, è tutto, perché non si può fare? Ah, ma questo bisogna chiederlo. Il sindaco è intervenuto in diretta, ha detto che a dicembre ha convocato il tavolo, un tavolo forse per giocare a burraco per le feste di Natale, non lo so. Dico che i toni che usa sicuramente sono apparentemente civili, che ha però avere i suoi diritti, ma deve farlo attraverso le vie legali. Ma attraverso che vie legali? Lei non ha seguito quello che ho detto io. Oh, signore mio, signore mio. Ha fatto tutte le vie legali, questi non se ne vogliono andare. Quindi cosa bisogna fare allora? Non ho capito. Quindi qual è la soluzione? Non so, devo chiamare prendere il cannone blu, non lo prendere so, il cannone, prendere il fucile, sparare. Che bisogna fare? No, sto cercando un carro armato di seconda mano per vedere. Capito. Cioè questo signore. Gianni da Perugia, che scandalo ragazzi, che vergogna. Gianni da Perugia, vai Gianni. Buonasera a tutti. Che dice la signora Pavlovic? Che dice il portavoce della comunità Rom, David Parenzo? Cosa dite? Cosa dite? Che sono portavoce della Rom, assolutamente. Sì, assolutamente sei portavoce, ti sei autocandidato a essere portavoce della comunità Rom. Sì, dico che andrebbe migliorata la loro comunicazione. Ho capito, ma proponiti come amico dei Rom. Alla fine sei amico dei Rom, pensi che siano discriminati? Pensi che siano discriminati? Mentre la maggior parte sono dei banditi. Eccolo qua, penso che siano vittime di una generazione. Generalizzazioni pazzesche. Ma che generalizzazioni? Ma guarda, ogni caso di cronaca che c'è è una vergogna. Dai. Ogni caso. Gianni da Perugia, non è che li tiriamo fuori a caso queste robe qui, sono cose che avvengono concretamente. Su Mafia Capitale, chi ha rubato su Mafia Capitale? Ma cosa c'entra adesso? Mafia Capitale. Buzzi e Carminati. Anche loro hanno rubato. Buzzi e Carminati erano Rom, Buzzi e Carminati o erano romani? Buzzi romanissimi. Ecco. E hanno rubato ai Rom, Buzzi e Carminati. Gianni da Perugia, vai Gianni. Sì, buonasera. Io volevo dire solo una cosa al signor Parenzo. Eccoci qua, caro. Le sue cose. Solamente buonasera a lei, buonasera e grazie per essere intervenuto a questa trasmissione. Dica, prego. Grazie a lei. Volevo dire una cosa solamente in inglese. Lei sa la conoscenza della parola reciprocity? Sì. Reciprocità, allora? Reciprocità, vuol dire, esatto. Certo. Perché non mettiamo... Io quando vedrò un italiano, un inglese, sindaco di qualche paese arabo o qualsiasi... Sindaco di Riyadh. Parenzo, sindaco di Riyadh, non lo vedremo mai. Un ebreo sindaco di Riyadh. Straordinario. Sindaco di Riyadh, allora vorrà dire che saremo, come dice lei, tutti integrati perfettamente. Comunque la merda d'artista è Manzù, eh? Manzù, credo. No, Manzoni, è Piero Manzoni. Piero Manzoni, che cazzo dici? Volevo dire a questo radioascoltatore grazie per aver chiamato e per questa considerazione. Lui dice, che ha fatto. Siccome non possiamo lei avere... Ha detto una stronzata, lo dico proprio con l'educazione. Perché? Del perché Gianni? Perché che vuol dire la reciprocità? Ma non è che se noi siamo, dobbiamo essere meno civili di loro, non è che se gli altri sono meno civili noi dobbiamo derogare alla nostra grande tradizione di diritti, di democrazia, di libertà, di integrazione. Ma lui vorrebbe la... Però vorrebbe il rispetto reciproco. Se ci deve essere un sindaco islamico reciproco di Roma, come tu ti auspichi, come tu speri, come tu sogni, ci dovrebbe essere un sindaco ebreo di Riyadh. Scusami, ebreo di Parenzo. Sto per ora. Sindaco ebreo a Teheran, vorrei vedere. Beh, adesso questo mi pare piuttosto complicato. Anche secondo me. Però a quel punto ci sarebbe secondo me, allora, come dice Parenzo, una reciprocità. Vabbè, ragazzi, comunque, fermi tutti, che dobbiamo andare via. Aspetta. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Siamo il top! Siamo il top! Ma va suca! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Io non vi sopporto più, ve lo giuro, cioè proprio non vi sopporto più. Io la sera, dopo il lavoro, devo mettermi in macchina, stanca, dopo una giornata, devo sentire tutte le vostre cazzate. Discussione della tesi di laurea in ingegneria meccanica, fino a un minuto prima, podcast della Zanzara nelle orecchie e siamo al top. Ciao ragazzi, di rado prendo su la macchina di mia moglie e lei ascolta delle radioscene. Io metto sulla Zanzara Radio 24 e quando scendo la lascio apposta su questa stazione e lei tutte le volte mi dice: ma cosa fai? Ascolti ancora quei due cretini? Siamo al top! Basta, mi viene da vomitare a sentire questo parlare, cioè basta. E tutte le sere, quando la mia carissima amica mi riporta a casa dall'università, mi tocca sentirmi per 20 chilometri, pure di più, la Zanzara. Siete insopportabili. Naturalmente. Non mi interessa! Allora, ha parlato Paola Perego, cacciata dalla RAI, cacciata da quel programma, ma ormai praticamente cacciata dalla RAI, la quale, conduttrice televisiva, come sapete, di cui ci siamo occupati molto negli ultimi giorni, la signora Perego, un po' piangente. Ti credo. Beh, piangente, non è che devi fare il melodramma, no, per forza. Una doccia fredda, ti chiudono un programma per una grafica. Cioè, sì, no, dire, per carità, ragazzi, però adesso non drammatizziamo. Insomma, ma non no, è che... ho capito, ma se uno perde un lavoro così, sì, a assolutamente, buffo, sì, per un errore, ma neanche un errore, uno che fa una trasmissione di intrattenimento, non è che c'è scritto sotto fonte Banca d'Italia. una roba, una classifica divertente. Comunque, allora sono stata messa in mezzo, dice, perché tutti sapevano, dice, i capi struttura, quelli che decidevano, essere, certo, tutti erano informati. Alla fine quella che se la prende in quel posto è la signora Perego. Questo può essere, certo. Sono disorientata, questa è la parola giusta, ancora non me ne rendo conto di quello che sta accadendo. Ti senti un capro espiatorio? È tutto troppo surreale. Cioè? Cioè mi hanno messo in mezzo in una cosa che è molto più grande di me. E come ti senti? Sono disorientata, spaventata, non riesco a rendermene conto, vedo i giornali e mi sembra una cosa surreale che non sta capitando a me. Hanno intervistato Rina, hanno bestemmiato, sì, non hanno cacciato nessuno, cacciano me. Questo è vero, è oggettivamente io vero. L'intervista di Rina l'avrei fatta tutta la vita, quella famosa intervista, no, di Vespa. No, ma per dire... Ci sono, dire, ne sono successe di tutti i colori. Ci furono polemiche per il figlio di Rina, che aveva scritto un libro e sicuramente non è Moravia, perché il figlio di Rina sicuramente non è Moravia. Ma dai, su, ha dai. Fatto benissimo a intervistarlo all'epoca Vespa, ma le polemiche che ne sono seguite non hanno sicuramente portato alle dimissioni del signor Vespa, che fa giornalismo a differenza della signora Perego, e fa le puntate dove si rifanno le, dove spiega come ci si rifà le tette il signor Vespa. Vabbè, del servizio tette, pubblico. Ma non mi ha cacciato manco Vespa, che vuol ma dire? Certo, questo per dire che se ci si appella al servizio pubblico potete chiamare l'800, ah no, pensavo fosse quello lì della RAI, che no, chiama non è tanto. Quello, se è volete quello, mandare a fare il culo, e che ritmo era quello. Se pensate che il servizio pubblico sia far vedere Bruno Vespa che fa informazione e spiega come si rifà le tette, e invece non sia fare un programma di alleggerimento e intrattenimento il sabato pomeriggio che non è giornalistico, in cui si parla anche della bellezza delle donne dell'est, delle donne dell'est, e per questo chiamate, viene chiuso, chiamatelo 0024. Oppure se invece volete mandare a fare il culo, eh? 393-71-71-701 Perego, Vespa, Rina. Che idea ti sei fatta? Mi hanno messa in mezzo. In che senso? Che è qualcosa di molto più grande. Spiegati meglio. C'è gente che ha bestemmiato. Hanno intervistato il figlio di Totorina facendogli l'altarino. Abbiamo visto in televisione qualunque cosa. Era un gioco. Poi devo dire che la Perego se la piglia col povero Fabio Testi, che è stato ospite qui in trasmissione, tra l'altro qui da noi. Ho chiesto di non invitare più Testi in trasmissione. Ma perché? Che ha detto il povero Fabio Testi? Ma magari detto, è un po' esagerato. Ma che quindi... esagerato, ha detto due cose normali, due comunque, esperienze di un suo amico. Comunque una persona, sia essa una, un giornalista, una conduttrice, che chiude, a cui chiudono un programma per una grafica. Ha diritto di piangere, dici, di essere diritto, drammaticamente... Ma ci starai mai? Ma essere, se, a te, sì. Se a noi chiudessero questo programma... A me quando hanno chiuso il programma cosa? Non mi sono messo a piangere, sinceramente. Beh, quasi brindavo, quasi brindavo. A me è dispiaciuto molto. Molto, sì, cioè, ma non è che ti sei chiuso, messo, cioè... non è che ti sei messo a piangere. No, ma piange, però magari capisco, io non piange, ognuno piange, mi dispiace. Ognuno piange. Allora guarda, chiudessero, appello alla boccia, alla dirigenza per cortesia, chiudessero, sì, questo programma. Le ragioni ci sono tutte per farlo. Le ragioni ci sono tutte. Qui non è una grafichetta. Qui è ogni giorno che ti assicuro volano aperte virgolette più cazzi qui che in un set di un film porno. Ergo, chiudete sto programma. L'appello no, no, lo carità, faccio io. No, carità. No, lo faccio io. Poi si riprezza, alza, si alzano le quotazioni, poi... Ma c'è qualcosa di cui ti vuoi scusare? Sì, io mi vorrei scusare per la dichiarazione di Fabio Testi. Almeno alla fine di tutto lo hai ribaltato? Ho chiesto di non invitarlo più. Ma povero Fabio Testi, che cazzo ha fatto? Vabbè, si vede che ma ha detto, non ha fatto nulla, ha detto, è stato, ha raccontato vede, l'esperienza di un suo amico che insieme alla moglie hanno preso in un bordello una russa, la moglie russa, hanno preso una e hanno vabbè, fatto si sesso vede in tre. Che l'ha ritenuto eccessivo, questo oh, è eccessivo quello che ha detto ma Fabio sì, Testi può essere, mentre paragonare ma comunque mentre, ragazzi, dai, il tema non è il tema ragazzi, non è questo su, qui, perché un conduttore vabbè, è padrone di dire quello è esagerato, aspetta quello un non è esagerato. L'ottavo per le donne prima della Boldrini, questo sicuramente sarà vero. Io non so, io quando sento la parola Boldrini, lo sai che mi viene veramente mal di stomaco. Ogni volta che sento la parola Boldrini mi viene un dolore allo stomaco. Che immaginare una persona come la Boldrini, presidente della Camera, è una cosa che mi dà un fastidio. No, ma questo non è vero. No, questo un non è... fastidio. La domanda terribile, che io terribile, faccio alla Boldrini terribile, è questa: quando su Rai 1 in un programma di informazione ti spiegano con dovizia di particolari, ma come è si pure devono, a quello è contrario pure a quello. Si non devono dire, non rifare suggerire, le tette. Non le suggerire interventi. Quello là è servizio non pubblico. Non le suggerire sì, interventi, dai. Oppure non no, le suggerire altri interventi. Per me sì, nefasti. Però... Quando la signora Boldrini ancora non era in politica e faceva televisione, io già lottavo per i diritti delle donne. E ti pesa di più essere accusata di razzismo o sessismo? Di sessismo, assolutamente di sessismo. Perché? Perché non lo sono. ma non solo non lo sono, perché porto avanti una battaglia da sempre, perché è uno dei miei principi base, la difesa dei diritti delle donne principalmente. Fa male. Io poi devo dire la verità, adesso a prescindere dalla Perego, a me quando qualcuno dice io mi batto per i diritti delle donne, no, io metto mano alla pistola. Ma perché? In generale, è giusto, però, come invece disse il famoso, come sai, signore protagonista di Tempi or Sono. Sì, però è giusto quello, no, con ma avere io in delle generale, idee, ma cosa degli bisogna ideali. Sì, per carità, però quando uno dice mi batto per i diritti delle donne, vado ai matti, vado ai pazzi. Perché uno mi deve spiegare, ma che cazzo vuol dire battersi per i diritti delle donne? Parità, riempite la di sì, parità, ma di cosa cazzo vuol dire? Alle professioni, io sono una vuol dire che mi, ma non mi riferisco in particolare, sì, vuol dire mi batto per i diritti delle donne, ma cosa vuol dire? Io sono mi parole batto, vuote, io ad esempio incomprensibili, io mi batto per quello e per i diritti dei migranti, tu che ti ad esempio per tutto i diritti dei migranti, un sì, domani il sindaco di Roma sarà Khalid Ciauchi. Pensate, no, per carità di Dio, speriamo di no, speriamo di no. Te Francesco da Napoli, faremo Francesco una grande lista multietnica, sì, con dentro le liste multietniche, chiamala così, lista multietnica, sì, sì, forza certo migranti, forza migranti. Ma questo forse è un po' eccessivo, però Francesco da Napoli, dai, su, e dai. Pronto? Dimmi caro, dimmi. Buonasera. No, io volevo intervenire in merito alle affermazioni che ha fatto Davide Parenzo prima. Che ha detto, sì, Parenzo? Che ha detto, buonasera a lei. Buonasera e benvenuto. Vedi oggi stasera che educato, dimmi, che dimmi sono. Buonasera e benvenuto. Sulla vicenda di Marco. No, ma io ho lavorato con te, Davide, ho lavorato quando venivi. Francesco, parla meglio, non si sente niente. Dove parla più vicino, togli viva voce. Ho lavorato niente, Walter dalla provincia di Viterbo, mi sono rotto i coglioni. Walter, ma dove provincia ha di Viterbo. Questo non qua mi interessa, Walter, provincia di Viterbo. Buonasera. Dai, dimmi Walter, dimmi. Allora, buonasera a tutti. Io volevo, ecco, dire che sono al scusami, topo. Poletti mi scrive in diretta: io mi batto per i diritti degli italiani. Mi Walter, Poletti, provincia di Viterbo. Poletti, dalla nostra parte. Ma si batte per quello che vuole. Volevo dirlo anche a Parenzo. Sì, eccoci. Ho sentito l'intervista prima di quel signore che gli hanno occupato la masseria. Sì, a me è sì, successa sì, una cosa simile. Io non ho la masseria, ho un appartamento che ho comprato dopo 15 anni di mutuo, poi mi sono spostato e ho abitato in un altro appartamento e ho affittato questo appartamento che ho comprato dopo. Vabbè, hai affittato un appartamento. Bellissimo. Allora, che cosa ho fatto? Ho cercato un'agenzia immobiliare. Tramite questa agenzia immobiliare ho fatto un contratto a dei signori. Questi signori hanno preso casa. Sì, di che nazionalità sono questi signori? Lo volete sapere? Sono albanesi. Sono albanesi. Hai affittato una casa agli albanesi. Dunque? Benissimo. A giugno regolare il contratto, depositato, sì, quindi sì, a giugno hanno pagato, a luglio hanno pagato, da agosto in poi non hanno pagato più. E allora? Abbiamo chiamato un avvocato, l'avvocato ha fatto... Vabbè, però amico mio, devo dirti la verità, perché adesso sì, saranno albanesi, no, eccetera. Però è pieno di italiani che sì, non pagano l'affitto e non si riesce a mandarli ma via. No, ma quello che è divertente è che i signori stanno ancora dentro, che io pago tutte le utenze, ma sì, quello che è fantastico è che il loro avvocato, dopo aver avuto poi... Noi siamo andati in giudizio, hanno avuto l'istanza di sfratto esecutivo. Va bene, dai, allora falla breve. Il signor avvocato loro ci ha detto che se avessimo desistito dal procedere sarebbero andati via a maggio. Mi fa ridere tutto ciò. Questa è la purtroppo giustizia non italiana. È la giustizia, è la burocrazia, no, italiana. Se uno non paga l'affitto, signori, la giustizia, burocrazia, quello che... Ma lascia perdere i dettagli, non me ne frega nulla. Se uno non paga l'affitto, dopo un mese, due mesi, deve essere preso a pedate nel culo, che sia albanese, che sia italiano, eccetera, eccetera. Dove andiamo? Rossano da Bari. Vai, Rossano, vai. Buonasera. Io la settimana scorsa sono stato uno di quelli che ha accompagnato il signor Luigi Marzo dentro la sua proprietà, perché la polizia quel giorno non si è presentata. Sì. Lo abbiamo perché scortato non si è, noi. Perché non si è presentata? Ah, tu sei uno di quelli di noi con Salvini allora, perché lo hanno scortato sì, lui. Sì. Noi sì, con sì, Salvini. Io. Parenzo, sì, noi con Salvini. Allora, sì, ho capito, Rossano, noi con Salvini. Io voglio capire una cosa. Voi siete con Salvini? No, noi, si chiama così, no, noi con Salvini. No, io prendo le distanze. Cioè, tu vuoi togliere... Voi siete con Salvini. Noi dici perché no, dici, voi con Salvini è l'uso abusivo del noi, dici. Ma l'uso abusivo del noi, evidente. Voi con Salvini, io faccio i cazzi miei, voi fate quello. Scusami, che allora, quello che ho visto là dentro, Giuseppe, sì, David, è sì, pazzesco, perché abbiamo visto animali pazzesco, morti a seccare. No, ho capito, ma infatti va bene, va, filo, la polizia, lo Stato deve intervenire. Allora, moto rubate, animali questo, morti, poi Meccanico. Questa masseria a ridosso della tangenziale di Lecce spesso rimane al buio. Sapete perché? Perché? Si allacciano abusivamente alla corrente elettrica, quindi fanno un danno alla collettività. Poi? Il signor Marzo ha aspettato per mesi e mesi. Siamo arrivati noi minacciando un'azione di forza. In realtà siamo andati lì pacificamente. Alla nostra vista gli uomini se la sono data a gambe. Ci hanno mandato avanti le donne con i bambini, bambini che non vanno a scuola, che vivono tra amianto, fili di rame, escrementi, qualcosa che i servizi sociali dovrebbero saltare sulla sedia. Ma solo certo, a prendere sentirlo. E togliere quei bambini immediatamente ai signori Rom, immediatamente, togliere i bambini. Perché poi succede quello che è successo a Bari vicino allo stadio. Aspetta, San Nicola, che torno con te, Rossano, torno con te. Ma a me non me ne frega niente se questo Rossano è di noi con Salvini, voi con Salvini, può essere pure comunista, può essere pure delle Brigate Rosse, non mi interessa. Beh, ci sta raccontando una cosa, ma per dire, ci sta raccontando una cosa reale, sì, reale, concreta. Bene, ma... I bambini Rom che hanno occupato, non i bambini, i genitori che hanno occupato quella masseria, siamo tutti trattano i bambini questo. In quel modo. Levare i bambini immediatamente, levare quei bambini ai genitori. Se fosse un italiano, uno non Rom, glieli toglierebbero subito, sì o no? Sì, risposta è sì. Sì, sì, sicuramente. Lasciati un parento e alla defecarsi io non ci penso. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. E gli uomini dell'Est, quelli sono i migliori in assoluto. Allora lasciate perdere, ragazze dell'Est, venite in Sardegna. La figa è nera, bella, bella, bella. Venite tutti quelli della Zanzara, venite da noi. Bimbo, bimbo. Allora Cruciani, su tutta questa teatri basui femmine dell'est e dell'ovest, sto qua con mio compare che ha un suo punto di vista ben preciso. Sentiamo. Vedi che i meglio femmine sono chi di Pachino. Le meglio femmine sono quelle di Pachino. Ma vogliamo ricordare, caro David, sì, prima di tornare, vogliamo ricordare a Matteo Salvini una cosa molto semplice. Cosa vogliamo ricordare? Ad esempio, dimmi, dimmi. Oggi ha avuto tempo di twittare su qualunque cosa che è accaduta nell'universo mondo. L'ultimo suo tweet risale alla morte terribile dell'ottimo Thomas Milian, che lui ovviamente giustamente ha elogiato, e io su questo sono d'accordo con lui. Però nel corso di tutta la giornata, dalle 8 del mattino sino alle ore, che ore sono adesso? 19:37 secondo il meridiano di Greenwich. No. Non Greenwich ho avuto, è un altro orario veramente, comunque secondo il meridiano della Radio 24, non ha trovato un secondo per scrivere una cosetta molto semplice su un episodio che è venuto a Rimini di un'aggressione razzista nei confronti di un giovane nigeriano che ora è in fin di vita, sì, pestato a morte quasi da un 39enne, ora accusato di tentato omicidio. Allora, il richiedente asilo picchiato merita due righe in cronaca, non merita una puntata di Dalla Vostra Parte, delle Quinte Colonne, un tweet di Salvini, non lo merita, perché è stato picchiato a morte un rifugiato, d'accordo? Salvini nel corso della giornata ha avuto il tempo di parlare del mago Zurli, di Bubù, di Thomas Milian, dell'attentatore Khalid Massoud britannico noto ai servizi segreti, ma non ha detto un cazzo sul giovane nigeriano che è stato massacrato a Rimini. Tu dici massacrato per razzismo, così sembra, no, massacrato per razzismo. Sicuramente. Ma investito e poi accoltellato da un signore romano residente, sì, a Rimini. Un residente signore, a Rimini. Non ho sentito, scusa, un signore? Signore romano. Non romano. Ho sentito, scusa. Non un rumeno, signore... romano. Allora, romano, che non è Davide Romano, il mio amico di no, Milano, no, che no, ogni romano tanto di origine... scrive su Repubblica, no, di origine nonché romano. Assessore alla cultura della comunità ebraica di Roma, di Milano. Quello è un romano, che non c'è, appunto, che è un romano. Non un rumeno. No, ecco, non bravo, un rumeno. Bravo, cioè tu dici che anche questo signore di noi con Salvini, questo signore Rossano da Bari, so dovrebbe occuparsi di più di occuparsi dei Rom, si dovrebbe occupare di condannare. Ma questo qua dovrebbe almeno spendere 5 minuti, una parola, un tweet, una riga. Beh, adesso che c'è? Quello si occupa dei Rom che hanno occupato una masseria di un poveraccio. Va bene, scusa. Questo va benissimo, ottimo, però la stessa indignazione e quelli vanno sgomberati. La stessa indignazione la vorrei per questo magari ragazzo richiedente asilo picchiato per strada da un 39enne romano italiano, sì, che ha aggredito sto ragazzo nigeriano che ora è in fin di vita. Vorrei soltanto così una telefonata anche su questo, una ogni tanto, ma non di Rossano, più. Rossano, che dici tu? Sì, no, ve lo dico subito, la violenza non va mai bene di nessun colore, se lo ha picchiato e pagherà per quello che è successo. Però certo, attenzione a fare discorsi con matrice razziale a tutti i costi, io non conosco quello che è successo. Cioè tu dici potrebbe essere pure una bufala questa qua? Non lo so, non lo so, lo sto sentendo da voi perché tutto il giorno che sono fuori in viaggio. Gli avrebbe detto negro di merda, ma lasciamo perdere, io voglio capire una cosa. Guarda, c'è un precedente su Fermo, ricordatevi quello che è successo a Fermo. Sì, è vero, è vero, ma comunque quello certo non era favorevole. Vediamo bene cosa è successo. Non era favorevole agli extracomunitari il tizio di Fermo. Comunque, come hanno ridotto sta masseria? Spiegami. Allora, io sono entrato con il signor Marzo, ho visto questa masseria, per cui lui sta pagando le tasse, perché poi lo Stato è puntuale. In che condizioni, è sta masseria, Rossano? Gliel'hanno distrutta, è un ricettacolo di rifiuti di ogni genere, dove poi spesso fanno incendi, quindi fumi tossici che si elevano sulla città. Ma la cosa bella è che c'è una stanza con un lucchetto chiuso, non l'abbiamo sfondata, vorremmo sapere cosa c'è dentro quella stanza. La sera vanno anche delle prostitute, abbiamo saputo anche questo, ma la risposta del prefetto è stata quella più eclatante, perché innanzitutto se non lo chiami sua eccellenza neanche ti guarda in faccia, e va bene. La cosa eclatante è che dopo tanto clamore, dopo che anche una giornalista locale è stata minacciata di morte da un signor Rom che era lì all'interno, dicendo adesso prendo il fucile, poi il fucile non sono usciti per fortuna, il prefetto ha detto guardate, ci penso un attimo, convoco fra una decina di giorni il tavolo per la sicurezza. Sì, sì, ma lo sappiamo, ma adesso fra poco sentiamo Marzo. Vabbè, anche grazie Rossano, ciao. Grazie a voi, Fabio. Ciao. Milano, Fabio, vai. Fabio Milano, vai. Chiudi tutto, dai, Fabio. Fabio. Mamma mia, questo è un coglione totale. Mamadou Torino, dai, Mamadou. Mamadou, vedi, lo sai. Guarda, avrei detto il signor Mamadou. Ecco, vedi, immaginavo che Mamadou. Oh, però ragazzi, forza, dai, Mamadou, dai. Sì, mio nonno in carriola, vai. Lo sai usare il telefono, Mamadou, sì o no? Ecco, lo immaginavo. No, ma anche io. L'avrei detto a chiunque, l'avrei detto. Mamadou. Vai, Mamadou. Dimmi, Mamadou, dimmi. Niente, Cruciani, testa di cosa che non voglio nominare. Ma che vuoi da me, scusa? Ma chi ti ha detto niente? Aspettami, adesso non hai detto niente oggi, ma l'hai detto i giorni passati. Mamadou, signor Mamadou, tu essere muslim, Mamadou. Vedi che a me non mi devi prendere per il culo perché ne ho i coglioni più di te. Io ti avviso solo questo. Ti avviso, dai, fammi un avviso, dimmi. Sì. Qual è l'avviso? L'avviso di questo. Dimmi, allora, avvisami, dai, forza, avanti. Io ho chiamato perché il signore lì è convertito il Bari. Il convertito di Bari, ma perché mi vuoi avvisare di che cosa mi vuoi avvisare, Mamadou? Io ti ho chiesto innanzitutto, sei muslim, sì o no? Sei muslim? Io sono musulmano, 100%. 100% musulmano? Sì. 100% musulmano, ma perché? Sono sposato qua, ne ho tre figli. Sì, e tua moglie c'ha il velo? Italia, non ha velo, fa col cazzo che pare. Vedi? Sì, questo ad esempio potremmo farlo assessore nel comune di Roma, mi pare ottimo. No, perché Torino, di Torino, che cazzo c'è? Di Torino, benissimo, assessore all'integrazione al comune di Torino. Tua moglie essere infibulata, avere qualche cosa su clitoride, come ci ha detto il signor Musso. Sono puta puttanata, questo sono una cultura di parte, non fa parte della cultura. Vedi come è integrato? Non fa parte dell'Isa, ma chi te l'ha detto che non fa parte dell'Isa? Lo dico io che mio padre è un capo, una imam è il capo della religione, capito? Quello che sto dicendo. Sì. Io ti sto dicendo la Sharia lo prevede o no? La Sharia, quello che è, lo prevede o no? Non c'entra niente Sharia. Non c'entra niente. Chi lo fa allora? E chi lo fa allora? Perché questo lo fa? Perché questo lo vuole fare? È una tradizione africana, la parte 2, ma non fa parte della Sharia. Non c'entra niente della Sharia. Questo, capito? Non c'entra niente della Sharia. La Sharia fa la circoncisione degli uomini, non delle donne. Tu segui la Sharia? Sharia. Io la mia l'Islam, io seguo la religione, no, della Sharia. E come essere trattate donne da religione? Ma perché essere trattato? Guarda, allora, capisce perfettamente allora, lui. Allora, io, Cruciani, io più di 10 anni ti sento, solo che io chiamo poco, magari le volte non chiamo. Mamma, io ho grande rispetto per te, signor Mamadou. Ma tu ne hai detto, no, perché tutta la volta ti dici un sacco di cazzate con questo gente. Bravo, che ti chiamano Mamadou, che non attacco. Hanno capito niente. Perché tutti i musulmani che ti chiamano, prossima volta ti dico, io te lo dico io, poi mi chiamo se vuoi. Qualsiasi musulmano che ti chiamo, dici che io sono musulmano ma non prego, mandala vaffanculo immediatamente. Perché no? Perché significa che non sono musulmani? Perché non sono musulmani, falsi, popoli, ti giuro, capito? Ma tu perché preghi, tu quante volte preghi, Mamadou? Io 5 volte al giorno. Ma come cazzo fai a trovare il tempo di pregare 5 volte al giorno? Io voglio capire che cosa. 5 volte al giorno a pregare, quanto ci metti a pregare? Ma 10 minuti. Non ci mette neanche. No, no, 10 minuti. No, magari anche 3 minuti, massimo 5 minuti. Cioè, tu 5 volte al giorno ti fermi e preghi. Vabbè, ragazzi, se sì. Mi sembra normale. Vabbè, anziché sì, farà, per voi è normale. Vabbè, secondo un tweet te, in meno. Ma va bene, è normale. Per se no, vuoi no, no. Io, tu, Curtiani, tu mi ascolti solo. Io, tu, la tua problema è che tu non credi in cazzo. Vuoi farti impedire la nostra fede? Non te la farai. Io impedire? Perché quello no, no. Perché tu vuoi che la... Tu che non credi in cazzo. Bravo, noi Mamadou. Abbiamo i diritti di credi quelle che crediamo. Vedi com'è integrato, quante parolacce usa. Scusami, Mamadou. Io voglio dire una cosa. Tu vuoi che tua religione si espanda in tutta Italia? Italia o no? Allora, perché? Questo non l'ha fatto neanche Dio. L'Islam, farla, l'Islam vuole la conversione di tutti, in teoria, no? Vuole che allora, tutti siano convertiti. Non è vero, non è in nessuna non è così, teoria, va bene. Allora siete liberali, siete tolleranti, siete tolleranti e liberali, siete tolleranti e tutti quanti voi siete tolleranti e liberali, va benissimo. Sentemi perché. Qua, perché Prophet Muhammad prima Islam di andare, è liberazione, dice, allora, è religione di pace, è religione di pace Islam, no? Bace, bace. Religione di pace, no pace, come lo dici tu. Poi l'ultima cosa che ti voglio dire, si dice, amico mio, il televisore vai chi poco, perché il radio sei proprio perfetto, ma il televisore non ti conviene. Ma sono cazzi miei, ma saranno cazzi miei, cazzi tuoi, perché ma ti sono sentivo che sono affari tuoi. La signora, la ministra con la parrocchiera, ma che cazzo hai tu con capelli spaventati tutti? Che cazzo hai di criticare quelle ministre che dici parrocca della ministra? Che hai i capelli tutti spaventati, una gira l'altra della sinistra. Pensa per te, porca la puttana, oh. Bravo, integratissimo. Tu che sei nigeriano, che sei senegalese. Conosci Spada di Fuoco, quello senegalese che sta in Veneto? Ma l'ho sentito perché la volta le fai cazzare, solo che lui dice cose che magari, perché lui non ha capito che tu sei un provocatore. Ma no, tu l'ha capito sempre... Ma lui come non si dice? Capito, scusami, perché? Come si dice? Io sono fissato su questa cosa. Allahu Akbar, ecco. Come si dice? Allahu Akbar. Allora. Dimmi. Allora, prima di cosa la non pronuncia è come vera, tu. Mi voglio dire una bella si dice Allahu Akbar. Bella, bellissima, vedi, bellissima. Okay. Si sente piena. L'ha detto Allahu bene, Allahu Akbar. Allahu così Akbar, bellissimo. Allahu Akbar. Tu no, non bisogna, le dici bisogna perché tu non lo, fai parte di loro. Tu lo vuoi sentire risuonare in tutta Italia a un certo punto. Allahu Akbar. Ma che male c'è? Ma scusa. Ma male c'è un cazzo. Non può risuonare in tutta Italia. Allahu Akbar. È orrendo, è terrificante, mette paura. Se uno sente Allahu Akbar, ti metti paura, scappi. Ma tu non sei mai stato a Sarajevo? Sarajevo bellissimo, ci sono, Sono anche delle cosine, sì, ma ci sono le campane che suonano, e al fianco c'è il minareto con la musica del muezzin, e poi c'è la sinagoga. Cioè Sarajevo è stata negli anni passati, prima della guerra ovviamente, un grande incontro crogiolo teneva insieme ma perché adesso moschea, sei fissato, ma chi se ne frega adesso, la chiesa a Sarajevo, e c'era ma poi la voce, è successo un casino, la è successo. Voce del muezzin vabbè, fermo lì, e dall'altra parte c'era la musica delle campane. Devo. Che hai i capelli tutti spaventati, una gira l'altra dell'altra e della sinistra. Pensa per te, porca la puttana, Ragazzi, dobbiamo chiamare quello, sennò poi se ne va, quel Luigi Marzo che ci aspetta, il signor Luigi Marzo, masseria occupata a Lecce da 30 rom che non se ne vogliono andare, una vergogna tutta italiana. Pronto? Sì? Sì, Cruciani, come stai, Marzo? Incazzato, Giuseppe. Che è successo, Luigi? Che è successo? Cucuzza su Telenorma ha mandato un servizio e ha invitato l'assessore alle politiche sociali. Sì, e che ha fatto l'assessore? L'assessore ha dichiarato che io con lei non sono andato mai a parlare con lei, e io confermo che non sono andato mai a parlare con lei, perché non sono io quello che deve sistemare i figli dei rom. Vabbè, però ricapitoliamo la situazione. Allora, per chi non lo sapesse, Luigi Marzo è il protagonista di una storia, Parenzo, incredibile. Inutile che tu ti fai paladino diritti dei rom. No, non sono diritti, dei diritti a prescindere, delle persone disagiate, dei diritti dei minori, eccetera eccetera. Questo signore ha ereditato una masseria. Questa masseria, appena è andato lì a vederla, d'accordo, l'ha trovata occupata da una trentina di rom. Prima erano di meno, poi sono diventati 30, giusto Luigi? Giusto, giustissimo. trentina di rom con dei minori, naturalmente. Ora, la cosa incredibile è che invece della forza pubblica che porta via questi signori e dice andatevi a trovare un'altra sistemazione, preferibilmente non a spese nostre, questi signori non se ne vanno, nessuno riesce a portarli via da quella masseria. Allora, Marzo, qual è la situazione adesso? Guarda, la situazione adesso è questa qua. Siamo andati a parlare col sindaco. Sì. Il quale sindaco si è dichiarato incompetente. Ma come incompetente? Allora chi è che ha la competenza a risolvere la materia, perché non è di sua competenza, non sarebbe di sua competenza. Ma roba da pazzi. Benissimo, abbiamo preso atto che si dichiara incompetente. Poi gli ho fatto vedere un telegramma che io ho trovato nella buca delle lettere, inviato dall'architetto del comune, responsabile dei lavori pubblici, dell'architetto, sì, del comune. Che vuole sto architetto? Che vuole? Mi intimava che io vada sul posto, cacci i rom, metta in sicurezza la proprietà, sì, impedisca l'accesso nel capannone e facessi tutti i lavori di risanamento dei luoghi, dei luoghi. Questa è una provocazione. Ma insomma, questi sono impazziti, cioè dovresti cacciare dei soldi, cioè andare tu a cacciare, sì, i rom, e poi pure mettere in sicurezza il capannone. Esatto, esatto. Quando i rom con la polizia presente ci hanno inseguiti assediate. Ci hanno inseguiti. Cioè vi hanno, voi siete andati lì e vi hanno sì, presi assediate. Sì, sì, sì, ci hanno minacciato, hanno preso le sedie in mano per tirarcela addosso con la polizia presente. Ma io dico, ma scusa un attimo, questi qua come fanno a essere innanzitutto una trentina? Quante famiglie sono? No, per adesso sono due famiglie, erano di più, però sono una ventina, 22, ci saranno sei minori, sei bambini, quindi... Ma vabbè, io dico una cosa, però scusami Luigi, ma sì, chi è che deve risolvere questa situazione a questo punto? Poi siamo andati dal prefetto e è stato costretto a riceverci e infatti... E ha detto che lui praticamente anche lui avrebbe un po' le mani legate per il fatto che è la procura che si sta interessando, vista la presenza dei minori, e che devono trovare anche una sistemazione ai minori, quindi sta facendo il punto con il procuratore capo. Ma roba per venire a capo di questa situazione. La burocrazia all'italiana, la solita cosa all'italiana, ragazzi. All'italiana. Però la cosa più semplice da fare sarebbe quella di andare, come dire, a fare una piccola spedizione, o no? Io ho tentato di chiamare i caschi blu, ma non vengono. Ma infatti, dico, una spedizione di gente per bene, una spedizione pacifica, caro Parenzo, una spedizione pacifica di gente per bene. Ma le forze dell'ordine hanno preso assediate. No, io dico una spedizione pacifica di gente per bene. Ma la parola spedizione, che, però, sai, no, che cinge d'assedio, che cinge d'assedio pacificamente la masseria. Come diceva Borghezio, no, siamo qui senza mazze né bastoni. Ma no, spedizione pacifica fa sentire la presenza della brava gente. La presenza della gente che non commette reati, che magari con dei cartelloni, lo Stato non fa un cazzo. Luigi, scusa, tu ti senti protetto dallo Stato in questo momento? Senti, ascolta, mi hanno irriso, mi hanno preso per culo. Ma chi? Dicendo, I Rom? I Rom, a me, nei miei confronti, dicendo noi di qua non ce ne andiamo se non con le tasche piene di soldi, perché qui abbiamo fatto dei lavori, delle migliorie, non so se avete visto. Ma chi l'ha detto? Sì, i Rom hanno dichiarato questo. Cioè ti pigliano per il culo? Devo pagare. Sì, mi prendono pure per il culo. La roba incredibile, Davide, sì. Ma scusa, devono pagare perché loro hanno fatto delle migliorie, hanno messo porte, hanno messo le porte, pensano... Ma io non difenderei mai questi criminali. Ovviamente, se sono nell'illegalità vanno sgomberati subito. Non e a chi glielo diciamo, signor Parenzo? A chi glielo diciamo? Tu che contatti hai avuto con questi Rom? Raccontaci un po' i contatti che hai avuto con i Rom. Niente, io guarda, che contatti? Io ad un certo punto me ne sono andato perché poi mi sono... No, ma all'inizio, che è successo? Immedesimato in Arnold, in Schwarzenegger nel film in Commando, quando quello stava armato dalla testa ai piedi. Ho sperato che fossi Schwarzenegger, guarda, non te lo... Guarda, mi devi credere. Cioè, guarda. Volevi a un certo punto spazzare via tutto. Sì, volevo essere armato dalla testa ai piedi, ognuno che la pensi come vuole, guarda. Parenzo, tu lo capisci questo signore o no? Non lo capisco. Nelle parole, non posso capirlo nella rabbia, nella cosa, ma l'idea di fare spedizioni per cingere da sé, c'è lo Stato. C'è ma lo Stato non c'è! Ma dove sta? Ma di che sta parlando? Ma dove sta? Sono c'è lo Stato. E lo Stato dove è stato in questi sette mesi? Prima se ne devono andare e poi intanto... Perché il sindaco in diretta ha detto che mi solleva dalle tasse, poi l'assessore ai tributi l'ha smentito dicendo che io le tasse le devo pagare lo stesso. Le tasse sull'abitazione, le tasse, montagne di rifiuti, chi me li porta via? Tutta la cacca che hanno fatto, la certo, decine e decine di persone lì nei prati, in campagna, chi è che fa il risanamento lì? Chi lo fa? I signori Rom dovrebbero farlo, i signori Rom. Come no? I Rom sono anche questo, sono soprattutto questo, arroganza, se ne sbattono i coglioni delle istituzioni, mettono i minori perché vogliono. La realtà, e lo sa benissimo Luigi, è che questi qua mettono i minori là dentro, sono con i minori, lo fanno apposta, giusto Luigi? Come no? Perché se quello ho sentito dire, sai, io ho parlato col mio avvocato, avrebbero anche un avvocato. Hanno pure un avvocato. Non vi preoccupate, per i prossimi 2 o 3 anni le cause civili durano 2 o 3 anni. Pensa che sanno tutte queste belle cose, sanno. Cioè, ma Rom, tu che ne pensi dei Rom, tu, che sono... Guarda, io ti dico che una soluzione ce l'ho, che adesso Parenzo può fare anche salti fino al soffitto, che non me ne frega niente. Qual è la soluzione? Di utilizzare l'8 per 1000, comprare l'isola dei famosi, sì, e smaltirli lì. Questo materiale di risulta. È un materiale di risulta. Ma smaltirli in che modo? Portarli lì, nell'isola dei famosi. Cioè, lasciarli in un'isola, cioè metterli tutti in un'isola. Sì, belli, tutti là, sì, così si lavano, va a Parenzo, li trova, li conforta. Ma Parenzo non difende chi commette reati. Beh, materiale di risulta. No, mi pare no. Non mi pare, guarda, non mi pare. Ciao, siamo volte, sempre qui, ciao. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La zanzara. In volo, in aereo, da Istanbul a Almaty, in Kazakistan, conosco un imprenditore come me, in viaggio per affari, che dall'accento riconosco e gli chiedo, ma di dove sei? E lui mi risponde, di Padova. Ah, e io, c'è anche un paesano di Parenzo. E lui, sì, faccio parte della maggioranza silenziosa. E io, siamo al top. Oh, Parenzoli, ricordati che i telespettatori della Zanzara sono come le scurregge. La maggioranza silenziosa è le vella e puzza di più. Anche io faccio parte della maggioranza silenziosa. Non chiamo, non piscio nel lavandino e non vado a mignotte. Parenzo, sei un miserabile. Ragazzi, basta dire che Parenzo si droga, lo dovete smettere. Parenzo non è cocainomane. Se ve lo dico io che sono spacciatore. Allora, Parenzo, non so se tu puoi vedere, sì, quello che sta accadendo qui in questo studio. 20.01, c'è una ipotesi di reato, però è una ipotesi. Ma qual è l'ipotesi? Forse varrebbe la pena aprire comunque un fascicolo per verificare. Ma perché cosa? Qual è il reato? Un'ipotesi, scusa, non ho capito. Detto un'ipotesi. No, allora, quello che sta avvenendo qui negli studi di Milano è una cosa molto, sì, semplice. Un anno come fa... faccio a vedere? Mi no, c'ho la webcam esiste anche. E dove esistono la vedo? Questi... Basta aprire radio24.it, ti colleghi con la webcam. Veramente? Sì, davvero. Sono 7 anni che sono qua. Esatto, bravo. Allora, no, c'è una cosa molto semplice. Si impara sempre. Cosa devo fare a radio? Allora, ma quindi mi si vede anche me? No, Davide, sì, ma compie un anno un essere, un animale, non un animale che si chiama Zanzarina. Sì, come una no. pecora, una sì, pecora sì. In pratica, no? Una pecora che fu protagonista qui in questi studi, certo, l'anno scorso di una visita di un signore che è un mio amico che si chiama Marco Mapelli e che è un ristoratore qui della Brianza. Ma naturalmente. Di Arlate, provincia di Lecco, dove ha uno straordinario ristorante che si chiama il Club della Costata, molto amato, tutto, molto amato, completa. Assolutamente molto sì, amato bravo, dai bravo. Vegani, molto amato dai signori vegani. Come si chiama? Posto, Club della Costata, Club come della Club? Costata, Club, così, Club della Costata, sì, dove fanno una costata straordinaria. E l'anno scorso suscitò grande scandalo perché arrivò qui con una pecora che all'epoca appunto era appena nata, che compie oggi un anno, che si chiama Zanzarina, ribattezzata da noi Zanzarina. Doveva essere trucidata, no, doveva essere uccisa. Beh, sì, a settembre. Per adesso l'abbiamo salvata. Grazie all'intervento di tua figlia. Grazie mi hanno detto, anche all'intervento di mia figlia. Non voglio metterla così sul melodrammatico. Questa Zanzarina compie un anno, è diventata molto grossa, molto pesante. E sembra che sia anche incinta. Così ci comunicano che sia incinta. Per festeggiare, bellissimo, l'ho riportata qui in studio, ma non per creare casino, eccetera. Per no, fa casino. Non la portate via. No, fermi tutti, chiudete. Marco, chiudi. Che succede? Sta facendo un casino pazzesco sta Zanzarina. Non vuole uscire dalla gabbia per entrare in studio. Non vuole, si rifiuta. Meglio rimetterla dentro, ragazzi, rimettetela dentro, dai. No, no, falla scorazzare per tutto il sole 24 ore. Ma no, ma è enorme. Meraviglioso, meraviglioso. Mi pare un'ottima iniziativa questa di portare degli animali all'interno di quel giornale. Mi pare un'iniziativa straordinaria, degna di grande nota. Ad esempio, da quando è stato, diciamo così, sospeso a Divinis il dottor Roberto Napoletano, mi pare un'idea eccezionale quella di riempire, non lo voglio chiamare sagrato perché il sagrato è quello della chiesa, ma riempire la hall d'ingresso, la reception, chiamata come pare, della sede già disegnata dal dottor Renzo Piano in Viale Monterosa, riempirla di animali. No, ma come riempire gli animali? Di animali, lo trovo meraviglioso, una bella stalla a cielo aperto nel cuore di Milano sarebbe meraviglioso, un grande segnale alla Confindustria, un segnale straordinario. Allora Marco, mettiti qua un attimo, però non costringere questo animale a fare solo cose. Un attimo perché lo so, molto pesante. È molto pesante, la signora Zanzarina. Non scorazza, se scorazza è un casino. Guarda, ma è diventata un casino, enorme. Dai, anarchia. Aspetta, mettiti un attimo qui. Quanto pesa, Marco? Parla a questo microfono. 50. Quanto? 60. 60 kg? Senti che fiatone. 60 kg. Tu la stai tenendo con tutta la tua forza. 60 kg di pecora. Che cos'è, una pecora? Come si può chiamare? È una pecora adesso. È una pecora, ma è incinta? Anche. Allungate il microfono, ma a Marco. Chi è il padre? Sì, è anche incinta. Ma chi è il padre? È il stata padre fatta un'eterologa? Un'eterologa è stata madre fatta. Sicura, padre incerto. Ma cos'è un utero in affitto? Anche nelle pecore. Ma cos'è un utero in affitto quello là? Cos'è? No, non è l'utero in affitto. Si sta, non lo so, giustamente si sta agitando. Ciao Zanzarina, sei straordinario. Dopo liberala. No, non che libera, sei matto. Fai liberare l'animale all'interno di quel giornale, è meraviglioso. No, allora Zanzarina, la situazione è molto semplice. Ha un anno, Marco, giusto? Avvicinati più di un anno, c'ha 14 mesi. 14 mesi, giusto? Ma perché questa data di oggi vuoi festeggiare tu? Festeggiare? È passato un anno, avevamo promesso che sarebbe finito il piatto, non si sa, invece qui bella vegeta, è diventata anche una bella fattrice. Ma adesso vai incinta di quanti? Quanti ne farà? 1, 2, 3, 4, non si sa. Questo non si sa. Non si sa. Pesa 65, hai detto. 60-65. Senti il fiatone, senti il fiatone perché non riesce a tenerla bene. Sarai curioso di vedere la faccia basita dei receptionist della radio quando vedono entrare in genere persone con la grisaglia, gente elegantissima, giacca e cravatta, manager. E a un certo punto vedono entrare un signore vestito con le fattezze che conosciamo, che trasporta una capra con un odore pazzesco. Si ferma e ovviamente alla reception dicono: scusi, lei con chi vuole parlare? No, me lo faccia dire a me, con la Zanzara, prego, è evidente. E sale questa capra all'interno del sole 24, è una scena meravigliosa, guarda, meravigliosa. D'altra parte, scusami se te lo dico, di capre da molti punti di vista qui ce ne sono parecchie, No, ma in generale dico. Però io Mario Capanna, immagino proprio la scena, in genere arrivano persone con la grisaglia, elegantissime, donne in tailleur, molto belle. Arriva un signore vestito come sappiamo sicuramente da contadino, certo, da contadino. Da ristoratore, diciamo, da uomo di popolo. Una puzza terrificante. No, non puzza, sì, puzza un po' da capra, è una capra, puzza. È una capra, rivolgi un attimo il microfono. È una pecora, sì, è una pecora. Vai il più possibile, il microfono il più possibile verso. Pecora è puzza da pecora. Puzza da pecora. Puzza da pecora come una. Tu sei abituato a maneggiare le pecore dall'altra parte. Ma questa qua, quando è che si chiude l'epoca di Zanzarina? Quando verrà ammazzata? A questo punto non si sa perché. Cioè potrebbe andare avanti fino alla morte naturale, dici. Anche. Ma dopo la morte naturale si può mangiare la pecora o no? No. Beh, se si uccide si macella. Si macella anche quando muore naturalmente. Ma quanto durano le pecore? Io sono ignorante completamente in materia. Quanto possono sopravvivere di loro sponte? 3 diciamo? Anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, dipende. Hanno. Quante ne hai ammazzate in vita tua tu di pecore? Nella tua vita? Tu quanti anni hai, Marco? Scusami. Ho 65 anni e non so quante ne ho ammazzate. Non me date attenzione. Troppe. No. Senti il rumore. Senti il rumore. Sta liberatela, veramente. No, non possiamo liberarla, dobbiamo rinchiuderla di nuovo nella cosa. No, bellissima, fateli devastare tutto. Sole 24 ore. Ma perché deve devastare tutto? Fatela devastare, mandatela in giro per la redazione. Guarda, meraviglioso, devasta bella, tutto, caga dappertutto, piscia dappertutto, una cosa stupenda. È straordinaria. Signora Zanzarina, per voi che non la potete vedere, che siete in macchina, tantissime persone, ve la descrivo. 65, quanti chili? 60 kg, quasi come i tuoi anni. Se nasce un maschietto, lo chiamiamo il Parenzino. questo è buono, però Parenzino. Sarebbe un onore, veramente un onore sarebbe. Allora, signora Zanzarina, che venne qua praticamente un anno fa quando era molto piccola, è ancora viva. Questa notizia della signora Martani alle altri animalisti che rompono i coglioni, eccetera, eccetera. Però prima o poi morirà. No. Fino adesso la stiamo facendo sopravvivere. Beh, sì, morirà di sua, come dire, anche di morte naturale. Quello tutti, quello anche tu. Assolutamente, quello anch'io, sì, però duro. duro più di 3 anni. Sono già durato, sono già andato oltre 50 tu. Comunque già oltre 50 sono arrivato. Ha una, guarda che cosa straordinaria che cos'è quest'uomo, ma che viene considerato così, la capra o il padrone? No, no, lui è il padrone che sta ansimando, perché, perché tenerla è complicato, è un omone, ma sta reggendo 65 kg di animale, che è straordinario. Guarda che animale, non lo puoi vedere, io lo sto vedendo, amici miei, ma lo voglio descrivere. Fotografala. Ma sì, ma certo, è tutto fotografato, è tutto documentato. Bellissima, cioè, è bellissima, è straordinaria. Cosa vuoi dire, signori vegani, che ancora ti massacrano, ricevi ancora telefonate di gente che ti minaccia? Cosa vuoi dire? Che ami gli animali, Marco, dillo forte, dillo. Li amo e tanto anche, e li rispetto. Più di voi, sicuramente più di voi, più di voi. Viva Zanzarina, che rimane viva a dispetto dei santi, a dispetto di tutti quelli che dicevano la volete ammazzare. Adesso si sta ribellando. Parenzo, intervieni tu, Capanna, intervenga. Molto bene, molto bene, molto bene. Lasciate allora immediatamente che la capra si esprima. Per esprimersi la capra ha bisogno di essere immediatamente liberata a grandissima velocità. Mettetegli anche un catenaccio al collo, un campanaccio, così fa moltissimo rumore, disturba tutti i colleghi che devono finire il giornale. Ecco, mandatela in giro, in particolare al terzo piano. Ma perché dove al terzo piano? Dove c'è il direttore. No, aspetta, si sta fermo, che hai fatto? Che è successo? Bacino, bacino. Certo, è talmente brava. Beh, riportiamola dentro, dai. Grande, no, Marco, no, poi lasciala entra libera, lasciala no, non libera. Si può lasciare libera. Zanzarina, ciao tesoro, yeah, ciao, ciao, ciao. Aprite tutto, aprite tutto. Caserta, vai Angelo, vai Angelo. Ciao ragazzi, vai. Buonasera, dimmi. Sempre un piacere parlare con voi. Dimmi. Allora, vi volevo raccontare una storia giusto brevissima, la stessa cosa che è capitata al signore di Lecce. Sì, dimmi. Questo è un mio parente, un cugino di mia mamma, persona vivente, potete chiedere a lui. Sì, questo sì. C'ha una masseria. Sì. Un giorno va su questa masseria, trova occupato tutti i rom. Sì. La prima cosa che fa, chiama la polizia. Sì. La polizia sì. Interviene, si piglia i nomi di queste persone, però non fa nulla perché dicono che loro hanno i minori e queste robe qua. Dicono i poliziotti, devi andare dall'avvocato a scrivere una denuncia. Questo va dall'avvocato, l'avvocato gli chiede i soldi, lui paga per scrivere sta cazzo di denuncia. Niente, e scrivono sta denuncia, però alla fine devono aspettare il tribunale che si pronuncia queste robe qua. Sì. Lui deluso ha una soluzione subito. Lui, velocissima, lui si occupa di espurghi. Mm. Il top. Cioè? È andato là con la botte piena di merda, sì. Piena di merda, ha cosparso tutta la masseria di merda, sì. 2 ore e sta gente è andata via. Ragazzi, divulgate questa tecnica. Mm. La merda per queste persone, ci vuole la merda. Beh, non questo... ci vogliono le istruzioni, non ci vuole Parenzo, non ci vuole nulla, sì. Ci vuole la merda. Perché questa è gente di merda, deve essere trattata. Ho capito, ma come si fa merda a riempire di merda una masseria per cacciarli in questo caso? Angelo, spiegami, come con si fa? Con la botte, c'è l'autobotte, questo c'ho così. Sì, sì, amico ragazzi. Mio, che ho candidato a sindaco, adesso ne parleremo alla radio. Aspetta, ti metto che questo un attimo cretino, che questo in diretta, cretino. Ti metto un attimo in diretta così puoi fare un saluto da sindaco. Zitto, allora, c'è in diretta il futuro, eccolo qua, il futuro sindaco di Roma, l'onorevole Calidi Ciaucchi, è in diretta alla radio. Sindaco, buonasera. Buonasera. Senta, quale sarà il suo primo intervento per rilanciare la città di Roma, sindaco? Khalid Ciaucchi, primo sindaco musulmano di Roma. La priorità per ogni sindaco di Roma intanto sono le buche, purtroppo. Bravo. Quindi una grande capitale. Su ogni buca Roma. Possiamo costruire un minareto su ogni buca di Roma? No, forse quello è un po' troppo, no? Cosa dice, signor sindaco? Beh, no, ci vorrebbero sicuramente. Dalla Lega potremmo dire ogni buca coperta, un minareto in meno. Così almeno. Scusami, Khalid, faresti altre moschee a Roma? Chiede il reazionario Cruciani se faresti altre moschee a Roma oltre la grande moschea che già c'è. Signor sindaco, prego, Ciaucchi, prego, sindaco. Beh, faremo sicuramente tanti luoghi condivisi. Sarebbe bello avere anche dei luoghi come negli Stati Uniti dove. Okay. Vabbè, ma farebbe più moschee a Roma, sì o no? Ma adesso più non faccio il democristiano, no? chiede Cruciani, più moschee per Roma, sì o no? Chiede, sindaco, prego. Penso, ci sono già moschee, devono essere più belle e più dignitose, sicuramente. Ma grazie, no, ma ce n'è solo una, ce n'è solo grazie, una. Grazie, allora, in attesa poi della giunta ci sentiamo, grazie ma molte, Ciaucchi. Ma perché devi candidare Khalid Ciaucchi a sindaco di Roma? Khalid Ciaucchi, sindaco di Roma. Ma perché? Perché è un grande simbolo. Ma no, beh, perché come il sindaco di Londra, come il sindaco di Rotterdam. Vabbè. Ma tu, adesso scherzi a parte, immagina che segnale sarebbe anche per la comunità. A me i segnali mi fanno schifo, chiaro? Cioè, fermi tutti, fermi tutti, una... dovete fermarvi sì. tutti, fermi. Fermiamoci, fermiamoci. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. La Zanzara. Siamo al top. Oh Cruciani, volevo rispondere a quel minchione che ha telefonato per dire che lui è un puttaniere e se ne vanta. Io volevo dire che lui è un pirla, un povero pirla e se ne vanta. Perché non c'è bisogno di pagare i soldi, di spendere i soldi per le zoccole. Le zoccole dai puttanieri vogliono solo i soldi e sperano che la fanno, che ci mettono poco tempo a venire, che c'è la fila dietro. Per dare un consiglio a sto stronzo e a tutti quelli come lui: vestitevi bene, lavatevi i denti, lavatevi i capelli, andate in qualche bar dove fanno gli aperitivi, c'è pieno di fighe che vogliono solo trombare. Ma che cazzo buttate i soldi? Siamo al top. Ma non ho capito, dottore, se da quando mi sveglio la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusi. Questo è il mitico Thomas Milian che oggi ci ha lasciato, è morto Ermonnezza, e noi siamo tutti un po' in lutto, cioè in realtà non siamo in lutto, non siamo ipocriti, però ricordiamo, ci dispiace perché cioè, ricordiamo con grande tenerezza Thomas Milian, che era certamente un uomo rude, ma in realtà poi nel privato non era così, devo dire una cosa, che oggi è morta un'altra persona, cioè Cino Tortorella, un mio carissimo amico che ci ha accompagnato, oggi è veramente una giornata incredibile, noi la prendiamo sempre a ridere, scherziamo, ridiamo, ci appassioniamo alle nostre battaglie. Oggi però due persone di grandissimo spessore, quando noi due moriremo, caro Parenzo, il più tardi possibile spero, nessuno ci ricorderà come ricorderanno Thomas Milian. Che ne sai? Perché dici di no? Io stavo dicendo semplicemente nessuno ci ricorderà. Nessuno ci ricorderà, aggiunto nulla. La tua tomba probabilmente faranno un epitaffio, io comunque verrò e piangerò, tu fondamentalmente non ti preoccupare. E ovviamente sono veramente dispiaciuto perché ho perso un compagno, un amico, un compagno di giochi. Cui sono stato molto bene, ho lavorato bene. Ma perché devi piangere? Ma non sono morto per niente, scusami. Comunque mi preparo. Vuol dire che devi morire prima te. Beh, sì, capito. Marco Mapelli, quello che ha portato ancora Zanzarina. Ma vada via con quella capra lì, cosa si inserisce nella trasmissione? Farò un grande epitaffio in cui scriverò Giuseppe Cruciani, nato a Roma, morto a Milano il 25 marzo del 2017. Tra due giorni, non ho capito. Cino Tortorella è stato un grandissimo, fino all'ultimo, ai radioascoltatori a fare la pipì nel lavandino. In realtà poi io non sono nemmeno uno di quelli che sostiene la necessità di fare la pipì nel lavandino, assolutamente no. Per cui comunque ragazzi, oggi Cino Tortorella, il mago Zurlì e Thomas Milian ci hanno lasciato. E sinceramente mi dispiace. Io non sono ipocrita, un po' mi dispiace, soprattutto per Cino, che conosco direttamente, e devo dire sì, è una cosa, era abbastanza prevista, però io mi ricordo, ti ricordi quando scoprì la vicenda di Giannino dello Zecchino d'Oro? Fu straordinario, amico mio. Raffaele da Foggia, vai. Tanto sempre Zanzarina presente qui, l'abbiamo rimessa, caro Parenzo, l'abbiamo rimessa dentro la sua gabbia. Perché? Ma perché non può, è potente, è massiccia, 60 kg, cioè non può scorrazzare lì come una matta. Ma cosa qui per la radio. Voglio capire dall'allevato, dal simpatico cucinatore di cuoco di carne. Sì. Voglio capire, nel caso venisse, professore, nel caso venisse liberata nella struttura di Radio 24, che cosa accadrebbe? Farebbe un po' di casino. E allora devo dire, è una delle cose migliori che si possa fare. Ma che casino, cioè, più che casino vuol dire? Di questo dici non ci può essere. Sì, già no, c'è un casino terribile qui. Per cui se si aggiunge il casino della capra, non cambia molto. Ma cosa fa? Corre, scorra, cosa fa? È abituato a vivere nei prati libero, cosa vuoi che faccia? Corre e cerca di dire la libertà. È liberata quanta, la quanta, capra. Quanta carne si potrebbe riuscire a ricavare dalla signora Zanzarina, secondo te? Cioè ammazzandola. 40 kg. 40 kg? Di che cosa? Che ci si fa con questi 40 kg? Si può fare arrosto, carne arrosto, si fa l'agnello. Ma poverina, è incinta, cosa dite? Ma no, ma che c'entra? Si potrebbe ammazzare lo stesso, no? Anche incinta. Si può fare un bel agnellone, si può fare arrosto in umido anche. Ma è incinta, che vabbè, ma che c'entra che è incinta? Scusa, non ho capito. Ma sì, ma si può. Sì, se nasce un bel maschietto, lo chiamiamo Paranzino. Ma tu hai ammazzato, anche delle pecore incinta? No, quello non si fa mai. No. È vietato, diciamo. No, non è che sia vietato, ma non si fa mai. È un controsenso, no? Per Pasqua quanti agnelli ammazzerai? Beh, per il mio ristorante 8-10. 8-10 ne ammazzi, eh? Ma anche tu personalmente continui ad ammazzarli dopo tutto? Certo, certo. C'è problemi. Naturalmente. Ho sempre fatto questo e continuo a farlo. Naturalmente. Che problemi ci ma sono? Ma che provi quando ammazzi un agnello, Marco? Cosa vuoi che provi? Ma niente, è una cosa naturale, naturale. Cioè non provi pietà nei confronti dell'agnello che muore. Certo, mi dispiace perché ma non è che lo macello in modo drastico, lo macello normale come va macellato. Ma quello normalmente, però certo, sempre una morte è, però vabbè, è nella natura delle cose. Dici, è nella natura delle cose. Per cui non provi, diciamo, non provi un'emozione, perché questi animalisti che stringono l'agnello al petto, che dicono oddio, sta per scomparire un essere umano, uno come voi, eccetera, che ancora continuano a mobilitarsi anche in questa, anche nella previsione di questa Pasqua, e sono tutti emozionati dal fatto che stiamo perdendo qualcosa, questo che rimbomba nelle varie nei vari posti. Ma dove vanno è la natura delle cose, insomma, l'agnello serve a essere mangiato, diciamo. Serve per essere mangiato da sempre, da una vita, da sempre, insomma. E non si cambia questa e non si cambia, almeno. Raffaele Foggia, vai Raffaele, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera. Chiamo a riguardo di quel povero signore Marzio, signor Marzio di Lecce, che ha un problema con i rom. Sì, facciamo una grande battaglia. Sì, ma ci vuole anche uno che chiami per il rifugiato di Rimini che è stato pestato quasi a morte? No, c'è qualcuno che può chiamare anche bravo, per quello? Sì, bravo, uno bravo. Bravo, io a me non me ne frega nulla, nel senso non è che non me ne frega nulla di quello, non è che la gente è un atto orribile, ma non è che la gente deve chiamare per forza, non no. È che quelli che si indignano per i rom in masseria si devono indignare anche per abbiamo capito che per quel rifugiato pestato quasi a morte non merita neppure una telefonata di un ascoltatore di questa cosa. Benissimo, abbiamo capito. Raffaele, questo. Che mi dicevi? Allora, invece, io volevo dire che c'è una soluzione semplicissima per il signor Marzo, soprattutto in Puglia, in queste zone. Insomma, io sono di Foggia, insomma, lei c'è la stessa cosa. Perché è una situazione analoga che è successa tempo fa su Foggia, cioè? Dove un costruttore aveva costruito un bel complesso edilizio, purtroppo a ridosso di un campo rom. E dunque? E per un paio d'anni non è riuscito a vendere appartamenti proprio per la vicinanza con i rom. E poi che è successo? Poi? E si è rivolto allo stato alternativo, giustamente. Cioè è andato dal capo mafia locale. Alla Sacra Corona Unita, in pratica. Sì, ma Foggia c'è la società, la Sacra Corona c'è a Lecce. Foggia ah, c'è la società. E dunque, certo. Secondo te bisogna dare mandato alla mafia praticamente per sì, risolvere il problema? Lui deve andare dal capo clan e deve dire guarda... No, ma questa è una cosa, francamente, devo dirti la verità, Raffaele, stai dicendo una cosa orribile. Io non sopporto l'arroganza in alcuni casi dei rom, la loro assenza totale di legalità, ma dire che bisogna appellarsi alla mafia, tra l'altro in un processo che è in corso, credo, non so dove, a Reggio Emilia o a Milano, contro l'Andrangheta, c'è uno che ha detto al posto dello Stato che non riusciva a risolvere esattamente quello che stai dicendo te, al posto dello Stato che non riusciva a risolvere il problema, non so dove, in provincia di Milano, in provincia di Reggio Emilia, a un certo punto siamo intervenuti con il Kalashnikov e con le pistole e abbiamo cacciato i rom in questo modo. Perché sì, pari ma non è... pari capiscono quella lingua i rom, non sì però Raffaele devo dirti una cosa che questa sì ho capito quant'altro. Io capisco questa cosa qui, ma augurarsi che sia l'Andrangheta o la società o la Sacra Corona Unita o altri banditi del genere a intervenire con i rom per cacciarli non mi sembra una cosa il giorno dopo Cruciani, il giorno dopo vanno via tranquillamente, ma sicuro, ma sicuro nessuno, ho capito, però poi nulla, sì ho capito, ma che prezzo paghiamo a questa roba qui di praticamente affidare ancora un pezzo di territorio a Gentaglia, dai su Raffaele, lo so, però così Cruciani, un'altra cosa, dimmi. Io sono un goliarda, nel 90 cantavamo la Zanzara, una musichetta di 40 secondi, e io la propongo come sigla di apertura e chiusura per il tuo programma. E Raffaele, adesso indagheremo, bellissimo. Ma indagheremo. E Antonio Udine, vai Antonio. Ciao Giuseppe. Dimmi Antonio, dimmi. Allora, volevo dirti riguardo alla telefonata di prima del musulmano di Torino, no? Tu gli hai chiesto... Guarda, scusami, guarda che fierezza, Marco, guarda che fierezza che ha questa pecora. È lì, immobile, dentro la sua gabbia, costruita apposta da Marco per portarla qui. Fiera, enorme! Sì, ma può stare troppo in gabbia, è pure incinta, liberala veramente, è disumano. Ma che disumano? Non dire cazzate, è tutto ma fatto a regola, non rompere i coglioni. Ma è un animale che sta dentro la gabbia, dove cazzo deve stare l'animale? Ma lasciala scorazzare per ma dopo tornerà 24 ore. A scorazzare, dopo, ma non può scorazzare qua dentro. Poi va al terzo piano e occupa la stanza del direttore, che peraltro c'è già il direttore, non si può mettere al posto mandala, del direttore. No, mandala all'auditorio. Formidabili quegli anni, dai, su. Formidabili quegli anni. Antonio, vai, dimmi. Naturalmente. Sì, ciao Giuseppe. Allora, tu hai chiesto al musulmano prima, no, ma voi musulmani non volete espandervi? Tutti dicono no, noi non vogliamo imporre la nostra religione, espanderci, eccetera, vero? Cioè, allora ti dico, Vai, io sono stato in Egitto, 6 di mattina iniziano quelle robe rompicoglioni dalle moschee, che si cioè a me già stanno sul cazzo le campane, no, la domenica. Dici, devo sopportare pure il suono della moschea. Devo sopportare pure questi, poi hanno iniziato gli ebrei, hanno continuato i cristiani, adesso ci sono i musulmani, non hanno... Davide ovviamente dice no, perché sai... Beh, adesso non è che nelle sinagoghe si senta il suono all'esterno, devo dire, niente. Non si sente nulla nelle sinagoghe. Si sente il suono delle bombe dalle sinagoghe. Antonio, Parenzo, però oggi è molto morbido, perché uno che dice ci sente il suono delle bombe nelle sinagoghe e dovrebbe saltare sulla sedia quando uno dice nelle sinagoghe si sente l'odore delle bombe, il rumore delle bombe. Ma lui fa il cinese, capito? Lui fa signora. No, ma questa è una cazzata che hai detto, cioè, fammelo dire a me, hai detto una puttanata, Vabbè, però, comunque a te dà fastidio l'idea che ci possa essere il rumore dell'Islam, no, cioè Dottore a 20 e 27 mangia in tavola, allora, non può parlare Dottore con glande demente glande. Tu frequenti i centri massaggi cinesi, lì hai imparato a far staccare, vai a far menare il chiodo nei centri massaggi cinesi. Dottore volgale, dottore volgale, c'è un maiale, dottore Palenzo, c'è un maiale al telefono, Zanzalla. Asinaccio. Con Cluciani c'è maiale telefono. Giuseppe, le religioni non servono un cazzo, questa è la realtà. Con me sfondi una porta aperta, amico mio. Caro mio, altro che cagate. Marco, tu credi in Dio? Sì, sei religioso, mica è un delitto. Sì. Vai a pregare? Poco. Poco. Zanzarina prega, che dici? Deve pregare per la sua... Diciamo una bella preghiera per in onore di Zanzarina. Dovremmo avere una preghiera per Zanzarina. Non... Morirà? Quando morirà? Dacci questo annuncio finale. Quando morirà, secondo te? Secondo me quando sarà il suo tempo. Ah, tu dici a questo punto non si ammazza più. No, basta. A questo punto non si macella più Zanzarina. No. L'annuncio ufficiale. Zanzarina non verrà più macellata. Basta. State tranquilli. Ci saranno altri agnelli che però verranno sacrificati sull'altare di Pasqua, caro Parenzo. Ciao Marco, un abbraccio. Ciao, viva Zanzarina. Ciao, Parenzo. Ciao caro, stammi bene. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. E se la Perego facesse meglio l'uomo italiano o l'uomo africano? L'uomo africano è più muscoloso, l'uomo africano è più fedele, l'uomo africano ce l'ha più grosso, l'uomo africano ce l'ha più lungo. Non so se ci sarebbero tutti questi problemi della Boldrini e via dicendo. Le donne dell'est scopano meglio e non rompono i coglioni. Ciao Crucia, secondo me le donne italiane si incazzano perché hanno paura che le russe li portino via gli uomini. Siamo al top. Allora ragazzi, la cosa incredibile, ricordate la vicenda del musulmano Mohammed Alfredo, no? Di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Mohammed Alfredo, questo convertito barese di 42 anni di Turi, Alfredo Santamato, il quale Mohammed Alfredo è stato praticamente messo sotto controllo dalla Digos, è stato indagato per terrorismo. Pazzesco. La moglie più i figli sono stati portati in un'altra struttura, cioè separati dal padre per motivi di sicurezza, perché il padre vorrebbe infibulare le figlie, così, cioè ha detto, toccare il clitoride, menomare il clitoride delle figlie. Questo ha detto, proclamato anche qui alla Zanzara il padre, il signor Santamato. Bene, amici miei, questo signore si chiama, ripeto, Santamato. La cosa incredibile è che tu, Parenzo, dirai tutto normale. No, non è tutto normale. Cosa accade? Io dico ottimo l'intervento delle forze dell'ordine, della polizia. Ma è d'accordo, il sindaco di Turi, paese, ripeto, in provincia di Bari. Sì, d'accordo. ha proclamato Urbi e Torbi, ha deliberato anzi 14.000 euro di bilancio del comune, 350 euro al giorno, per mantenere la famiglia del signor Alfredo Santamato. Siccome questo non può più lavorare, la famiglia è stata... Questo mi sembra una misura anche giusta in fondo, no? Cioè, perché noi praticamente per le cazzate di questo rincoglionito non cominciare. Paghiamo 350 euro al giorno. Paghiamo che cosa? La moglie, paghiamo, le figlie, non che mi sono interessa, paghiamo pazzo, 350 no? euro e non no, lo so, no, sarà no, pure no, così. No, no, no, però un momento, sì, rimettiamo sì. in ordine le cose. Noi qui, questo provvedimento che ha preso questo sindaco anche illuminato, mi pare, ponendosi un problema rispetto a tre sue concittadine peraltro in difese, no? No, ma i soldi parliamo... riguardano pure lui, non riguardano solo le tre, riguardano no, anche lui, perché credo, come campa, come no? 14.000 euro l'anno, 350 euro al giorno, non mese, mi una grandissima cifra. Le donne, 350 diciamo... euro al giorno che paghiamo ma, noi insomma, la figlia, per le cazzate dette noi, per i proclami estremi. Noi chi aspetta chi paga? Un attimo, mi pare che le figlie ne abbiano tutto il diritto e anche ovviamente la madre. Ma il diritto che non è lavora. Che prendere soldi nostri, ma cioè, perché a prendere soldi? Tutelare tre donne che sono già vittime di questo pazzo scatenato. Che tu dici che potrebbero correre altri pericoli è un dovere. Ancora dei pericoli, sì, è un dovere di un sindaco. Sì, mi rode il culo, però mi rode il culo. Come il fatto, dice, scusa, mi rode il culo, sì, mi rode il culo. Ah, te lo dottore, dico in maniera. Beve vino l'osso quando c'è parolaccia. No, ma non è che dottore è un coglione. No, perché... dottore beve vino l'osso. Beh, bevi pure il vino Bordeaux, l'osso. Bordeaux sarebbe il Bordeaux. Bordeaux. Sì, ma perché io devo pagare 350 euro al giorno? Io ho stato per le cazzate perché pronunciate. Sono tre disgraziate. Per proteggere queste tre. Perché vabbè. Sono tre disgraziate, ma tre cittadine di Turi. E quindi il sindaco, in modo lungimirante e intelligente, sfidando spende il politicamente nostri, corretto, sì, spende soldi del comune, non nostri. No, perché sì, anche nostri, loro sono cittadine sono? Del comune, ma anche vabbè, loro pagano comunque, le tasse, io mi sono no? incuriosito. E adesso, Santamato, questo cognome Santamato, vicino Turi. Ce ne sono pochi di Santamato dalle parti di Turi. Sì. Io proverei a chiamarne uno, non so proviamo, come cazzo si chiama, un Santamato. A caso, facciamo un Santamato a caso. Magari sono parenti, che ne sai? Vediamo che succede, dai. Pronto? Sì. Casa Santamato? Sì. Sì, buonasera. Io cercavo i parenti di Alfredo. Hai sbagliato. Conosci Alfredo Santamato? Non appartiene alla mia famiglia. Ma lo sa di chi sto parlando, sì? Ma di chi stai parlando? Cioè, sto parlando di quel tizio che è diventato musulmano, eccetera, eccetera. Ma che cazzo stai dicendo? Stai calmo, stai molto calmo. No, Alfredo c'è? Santamato, tu conosci Alfredo Santamato? Ma che cazzo sei? Non conoscono tu, ti stai sbagliando. Ma devi stare tranquillo. Ma perché si altera? Devi stare così? Molto tranquillo. Buonasera, sono Parenzo. Devi stare molto tranquillo. Conosci Alfredo... Allora... Devi allora, stare tranquillo. Ricapitoliamo. Chi è? Tu chi sei? No, tu chi sei? Tu chi sei? Ma vaffanculo. No, no, ma devi stare calmo. No, ma sei impazzito, sei. Devi stare calmo, molto tranquillo. Ma questo è impazzito completamente, non ho capito. Risponda, si chiama. Sì, risponda alle domande. Richiama, dai. Pronto? Stiamo calmi. Stiamo allora, calmi, stiamo adesso calmi. Se non ha finito io chiamo i carabinieri. Ma tu puoi chiamare chi ti pare? Io già, c'è cioè, giù qui da me un carabiniere. Ma, vado ma non c'è sei un carabiniere. Sei un carabiniere. Ma puoi denunciare chi vuoi? Io ti sto chiedendo, conosci Alfredo Santamato? Tu chi sei? Ma non ti... Conosci Alfredo Santamato? Mi chiamo Cruciani, lui si chiama Parenzo. Conosci... Chi siete? Ma noi chi siamo? Vuoi rispondere Alfredo Santamato? No, lo conosci o no? Non rispondo se lei non si qualifica. Allora, io sono Parenzo. Chiamo il signor, il carabiniere. Ma tu puoi chiamare... Ma i carabinieri sono no, Nicola, ma tu puoi chiamare qua, chi vuoi. Io sono Parenzo intanto. Buonasera e lieto di fare la sua conoscenza. E chi è? Allora, ma siamo Cruciani e Parenzo, siamo due. Chi cazzo sei? Siamo due signori sì. che lavorano in uno un posto più vecchio, che l'altro uno, io più giovane. Esatto, uno due signori che lavorano alla radio. Conosci le radio? Confindustria. Ho capito, tu sei quello che fa le ho capito chi sei. Lei dai. Conosce la Confindustria? La Zanzara, no? Bene, ottimo, vedi che ci arriviamo male. Alla fine. Con calma, con tranquillità. Eccoci qua, senza aggressività. Con calma. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato, mai conosciuto. Si chiama come un signore che è diventato estremista. Ma quanti Santamato ci sono sull'elenco telefonico? Se uno è parente di un estremista islamico, beh, se ne faccia una ragione se lei è parente di un estremista islamico, se lei è parente di uno che vuole la Sharia, eccetera. Vabbè, che cazzo c'è? Ma sai quante ne stanno Santamato? Ho capito, Santamato. Ma perché questa aggressività? Ammettilo, sono parente dell'estremista islamico. Che lo dica e basta. Lo dica e basta, dai, su, senza tante chiacchiere, dai. Ma sai come se... significa la parola trimone a Bari? Trimone, come no, lo conosciamo bene, trimone. Cazzo, lo sai Cassano quante te ne ha dette? No, è trimone. Allora, allora chiudi il telefono, sì, e non ne parliamo più. Come chiudi il telefono? Non ne parliamo, chiudi il telefono e ne parliamo ma più. Ma tu sei... Però, veramente adesso ti denuncio. Ma allora, tu puoi denunciare chi ti parla? La domanda tua, non mi, adesso, se sì, non chiudi immediatamente il telefono, perché anche ti ho visto anche in televisione, non è che sei... Ma che cazzo, che cazzo, ma che c'entra, scusa? Un po' sul cazzo. Ma va bene, diciamo, ottimo, ottimo. Tutte quelle cose che vai. Ricordati questo numero. Ma chi? Ma io manco lo so sto numero. Ma per cosa? Ma a che fare cosa? Ma per cosa? Ma denuncio per cosa? Denuncio per cosa? Di chiamarmi. Ma chi ti chiama? Ma chi ti si incula? Voglio sapere, sei parente di quel tizio? Ma vai, vai, ma vai dai carabinieri. Ti sei parente di quel tizio, sì o no? Sei parente di quel tizio? Ma è una domanda, non basta rispondere sì o no. Sei parente o no? Scusi, io capisco l'attenzione che si è creata in questa piccola intervista, però voglio capire, cioè, pronto Turi, pronto? Pronto? Sono Parenzo, intanto buonasera e lieto di fare la sua conoscenza. E chi è? Mai cagato. La gente è troppo fumantina ogni tanto, eh? No, beh, certo, non sì, sono io a poterlo dire, certamente. Bastava una semplice: no, io non sono parente di quel tizio, invece, no. È il bue che dà del cornuto all'asino, sai. Ti riferisci a me, scusami. A eh? Te, lui, sì, il bue che dà del allora, cornuto all'asino. Allora, un po' di sesso, ragazzi, un po' di sesso. Razzi e il suo passato alle Iene, il suo passato sessuale raccontato migliaia di volte. Evidentemente fa ascolti, eccetera, vai. Io 17enne, parte da un paese, era vietato guardare anche le donne, figurati, c'era tutto un bene di Dio, mi sono dato da fare, avevo una mini minor, mi fa male ancora la schiena adesso perché il movimento per girarti era molto difficile. Ho detto mi devo riposare, mi devo sposare, se no altrimenti morirò sopra una donna. Se trovo una ragazza che mi aspira fiducia e che è sicuro che magari sta a casa, che non mi tradisca di notte, certo, se ne va in giro quando io vado a lavorare. E sua moglie l'ha aspirata. E allora questa ragazza, che oggi è mia moglie, ha detto questa è la donna della mia vita. La patata come la chiama di solito? Beh, la figa. Il termine scientifico proprio lei usa. Quella di sua moglie, come la chiama? Io non ho mai chiamato, è lì. Il boschetto è il stato. Boschetto, quindi la moglie della vecchia scuola, insomma. Sì, brava, brava, anche perché devo dire che l'ho trovato vergine. Mamma mia, caro Davide. Mamma che mia. Genio, ragazzi, che genio. L'ho trovato. Il boschetto di mia moglie era vergine. Chi è che ha, come dire, tra i senatori italiani, ha il coraggio, l'ardire e, se vogliamo, anche l'arte di comunicare che il boschetto di sua moglie era vergine? Chi? Dimmene uno, dimmene nessuno, uno. Nessuno. Ma non è una non è colpa sua, dici nessuno, perché è troppo. No, oltre. È arte, è pura arte, è teatro, è tutto, è teatro, è pure, è commedia all'italiana, è straordinario, è Thomas Milian, capito? Forse involontariamente o forse volontariamente, non si saprà mai, ma è Thomas Milian, adesso non è una bestemmia oggi che è morto Thomas Milian, è tutto questo, e anche Mauro Corona è così, quando ci dice che il suo uccello è quasi da superdotato, ce l'ha detto ieri in questa trasmissione o l'altro ieri, non mi ricordo. Sì, sentiamo, sentiamo, era... sentiamo. Comunque ha funzionato fino adesso. Ha funzionato, ma anche di dimensioni notevoli il tuo pisello. Ma vabbè, no? Ma chi manca adesso? Ma da quel che si dice direi di sì. Ma chi dice? Cioè, sei super dotato in pratica. Non dico super, ma un po' più della media. A chiare lettere disperati. Beh, la regia. Amico mio, più della media. Siamo sopra i 15, Mauro, sopra i 15 allora. Assolutamente sopra i 15. Io tradisco mia moglie, vada con chi vuole, non è un dramma. Una volta ha confessato qui che praticamente sì, tradisce la moglie puntualmente. No, ma, no, ma che no, discorsi, ma dopo 40 anni devo stare ancora lì. Non è un tradimento. Il tradimento è una parola sbagliata. Uno allora perché io sono sposato devo stare sempre con lei fino alla morte. Ma scusa, a te non ti darebbe fastidio se tua moglie, no, assolutamente, dire, si accompagnasse non, ma non sono con un superate altro. Ste robe, vada con chi vuole. Ma come? delle donne mi piace il culo. YouPorn lo guardi? No. No, no, no. Non ha no, tempo, per carità, non ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è ma che ti eccita di più di una donna? Il culo. Il culo. Ecco, te lo tuo. Ma ragazzi, no, perfetto. E deve essere tondo, largo, non quelli stretti. Anche maschili. Moravia comunque andava molto nel merito del. Ah, ecco, Fellignani. Fellignani. Provincia di Salerno, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Santo Tommaso, vai, Alfredo, dai, dimmi. Sì. Perché non l'hai mandato a fanculo prima che lui cominciava a parlare? Chi Tahir, dimmi. A Santo Tommaso Alfredo. Perché non l'ho mandato a fanculo? Che significa? Volevo intervistarlo e farmi dire quello che pensava della sua vita folle. Tizio, un ignorante che non sa niente, soltanto sapeva. Allora, fare tutti una quelli che sono estremisti sono per te. Tu sei muslim pure te, Tahir? Allora, una bella domanda, adesso ti rispondo anche che io chi sono. Sei io muslim sono o no? Allora, io sono musulmano, cristiano e ebraico. Musulmano perché sono nato in una famiglia musulmana, cristiano perché vivo in una. Sì, una vabbè, ma non fare cose. Ebraico perché ho degli amici ebraici. Sì. Allora, bene. Per la tua informazione, David Paranzo è uno. Io sono un grande fan di David, no? Grazie, sì, ma Tahir, io non capisco. Una persona molto informata. Sì, ma che vuoi da noi stasera? Almeno allora parli con lui prima di insultare una comunità. Io non sto insultando allora, nessuno, tu, ma chi sta allora, insultando? Dici tu che allora, un milione di musulmani che vivono qua in Italia, no? Sì. Benissimo, lavorano, ottimo, sono integrati, lavorano, sono in regola, non predicano estremismo, cioè, ecco, va benissimo, possono fare quello che vogliono. Sì, però non è giusto allora che tu fai le cose che come fa Salvini. Ma chi fa le cose come fa Salvini? Ma che dici? Ma io faccio un altro mestiere, quello fa il politico, io faccio il conduttore alla radio. Tu fai proprio la voce di Salvini. Ma sarai tu la voce di Salvini, no io. Io non faccio la voce di nessuno. Ma per me sono la voce di me stesso, non dire cazzate. Lui è un criminale. Per me lui è uno. È un criminale! Sì. Salvini è un criminale. Salvini? Perché certe volte allora io non riesco a capire. Cioè tu stai, Salvini è un Tahir della provincia di Salerno. Mi sembra che sia, è inutile che dici, fai, sei muslim o sbaglio? Sei muslim o no? Ma non è un'offesa, sei muslim o no? Io ti ho risposto. Ma non fare lo sbruffone, sono muslim ma anche cristiano e anche ebraico, non sai nulla praticamente. Cioè, no, io so abbastanza tante cose e continuo a leggere. Sì, ma di religione che sei? Puoi anche essere ateo, di che sei di religione? Allora, certe volte non riesco a capire che il capo dell'ISIS è al-Baghdadi o Salvini. Perché sì, tutti due hanno lo stesso motivo di creare le guerre tra cioè, Salvini, culture, ti stai tra paragonando Salvini al capo dell'ISIS. Ma tu lo sai che Salvini è quanto è disperato, che lui vuole che qualcosa succeda anche in Italia, cioè, per raccogliere una raccolta dei voti. Si augura un attentato in Italia. Ma proprio è disperato, perché lui vuole cavalcare su qualsiasi cosa. Ma sei un pazzo, allora, dai. È offendere delle persone che non hanno neanche il diritto di fare il voto è molto più facile, perché tu... Le persone che non hanno il diritto di fare il voto li puoi inculare come vuoi tu, no? Eccolo qua. Allora, e parlare i problemi seri di questo paese, no? Non se ne parla nessuno. Perché non parla che metà della Lombardia è diventato Chinatown? Ma che c'entra? Ci sono delle cooperative che prendono dei ragazzi romeni, allora sottopagati, e non c'è il posto di lavoro ma per quello, gli se italiani. Sono sottopagati, che vuol dire sottopagati? Sono allora, in... perché quando succede un attentato a Bruxelles, quello davanti a un carro armato ci fa vedere che lui è un soldato italiano che sta in un campo di guerra. Ma tu ci allora, credi a questo attentato, Tahir? Ci credi a questo attentato di Londra? Ma tu ti rendi conto che allora mi fa ridere, no? Perché ho visto il suo ultimo video che ha pubblicato su Facebook, che quando parlava di questo attentato di Londra, no? Salvini. E io allora? Lo dico Salvini, allora? Perché allora... A lui piacciono fare solo i selfie, no? Selfini lo chiami. Allora, hai visto il video? Dietro c'è anche la cabina telefonica che si usa a Londra. Quindi allora? Ti fa proprio una scena. Fa delle cazzate, delle stronzate che... Fa politica. Politica, ma è politica di un livello proprio... No? Vabbè, Tahir, ho capito che non ti piace Salvini. Mauro D'Asti, vai. Mauro. Sì, pronto, ciao. Dimmi a Mauro, dimmi. È mezz'ora che sono qua che aspetto. Adesso sono primo. Dimmi, forza. Sono primo. Non perdere tempo, dai. Senti un po', ma le Iene ci sono o ci fanno? Su che cosa? Ah, sui taxi. Sei un tassista tu? Sei un tassista? Sì, ad Asti. Sì, però ragazzi, non è che si può dare addosso alle Iene alcune volte, altre invece dire che sono i più bravi del mondo. Esatto. No, hanno fatto un'inchiesta sui tassisti in cui dicono certe cose, magari ne parleremo domani, adesso non c'è tempo. Tu perché li critichi? Non ho capito. Perché hanno generalizzato tutto, hanno vi fanno passare per evasori, dici? Oh, io sono qua, sono venuto giù stamattina alle 7, sono ancora qua, ho 80 euro in tasca. Sì, sì, io non sto dicendo niente. Quanto dichiari tu? Dichiari tutto? È il primo anno che lo faccio, sì. Perché di solito ci sono gli studi di settore, lo sai, no? Va bene, ma guarda che il mondo dei taxi non è Roma e Milano. Ci sono tutte le province come la mia. No, ma certo, Vabbè, magari ne parliamo domani, Mauro, non c'è tempo. Federico della provincia di Ancona, veloce, scusami Mauro. Federico, provincia di Ancona, vai. Sì, ciao. Veloce, vai. Ma niente, chiamavo perché ricordo la notizia di Torino, dove a quei due signori, perché anziani, hanno tolto la figlia a questi gli permettono di vivere come bestie dentro una stalla. Sì, cioè, ai Rom stai dicendo. No, ma questa è un'osservazione molto giusta. Cioè, tolgono una figlia a due anziani, come è successo credo a Torino, non so dove, in Piemonte, mentre ai Rom, ai bambini Rom che vivono nella merda, non fanno nulla. È una vergogna questa roba qui, una vergogna. Ragazzi, ci sentiamo domani, ciao. Sono Parenzo intanto, buonasera e lieto di fare la sua conoscenza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mai cagato. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.